Luca! Grazie. Graziano, mi senti? Eia! Ancora mi ascolti? Sai che prendo un po' la caffettiera? Dimmi! E adesso ora un po' come mi ascolti, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Riprova! Prova. Si sente l'alternata. C'è un'alternata. La voce già sente chiara, ma c'è l'alternata. Vale adesso, 1, 2, 3, prova. Sì, a sottofondo si intende l'alternata. Proprio deve essere l'impianto allora. E che impianto? Impianto elettrico, ma sempre. E tira un pezzo di fila a vedere e lo colleghi dal baracchino al termosifone, lì non ce l'hai lì vicino. Sì, aspetta. Prova dal baracchino e lo colleghi alla lamiera dove non è verniciato. Oh, sotto non è verniciato nella griglia di sopra. Infatti sono uguali, sono sicuro. Prova a mettere un pezzo di filo. Ora mi vengono gaffe. Guarda la grazia adesso, prova. 1, 2, 3, prova. Aspetta che ero in camera che non ti ho sentito. Prova. 1, 2, 3, prova. Si sente più basso adesso. Forse perché fa questo problema. Ma solo una radio, ma la realizzatore è vicino, c'è. Sì, al metro. Prova. 1, 2, 3, prova. Adesso l'ha fatto, poco fa, no, adesso l'ha rifatto. E prova a mettere anche un pezzo di filo, ma il filo l'hai messo il filo del ramo. Sì, ci vuole adesso, 2, 3, prova. E prova a levarlo dal baracchino e lo metti dall'alimentatore a mega. A vedere se dipende dall'alimentatore, sarà senza massa l'alimentatore, perché penso che il baracchino all'interno ce l'ha la massa. Guarda, ho attaccato il filtro adesso, prova. Parla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Più basso si sente, ma ce l'hai sempre. E ma è solo dovuto all'impianto. Se tu provi a mettere un pezzo di filo dall'alimentatore a un pezzo di ferro lì al termosifone a vedere che magari quel rumore lo scarica alla lamiera del termosifone. L'ho attaccato il filo al PL, guarda un po', 1, 2, 3, prova. Più basso si sente adesso, ma si è attaccato il filtro. Anche il filo di massa attaccato, guarda un po'. Vabbè, il segnale comunque è alto, vabbè. Sì, ma adesso non si sente, hai visto? Prova, parla. Parla. No, adesso non lo sento più. Così dovresti andare bene. E cosa dico con controllo? Cioè a fondo scala, se ci esce a me. Ora adesso che l'ho messo dopo la prima al baracchino, 1, 2, 3, prova. E si sente il rumore. Sì, si sente. Perché dove ce l'hai il baracchino? Cameretta. Vedi, si sente. Ah, sai che è dalla radio, no, invece. Aspetta che mi metto il capo e... L'amaretto o quelli secchi, quelli girati secchi, come si chiamano? Guarda un po' si sente adesso che sta arrivato. Prova. Sì, sì, si sente. Allora, cosa dici? L'amaretto o quei biscotti secchi girati? Che sono leggeri, zuccherati e sono. Beh, tossati sopra. Ah, boh, guarda già tu. E poi c'ho un bacio perugina. Fai il bacio perugina. Allora, Boedo, eia, delicato. Fastidioso, anche io sento qua alternata, quando parli tu. Quando parlo io, e in cazzo è nuova la radio mia. Guarda adesso, si sente, prova, 1, 2, 3. Sì, è più bassa di poco fa, però già si sente. Sono troppo vicini, tu. Così è troppo, è più forte adesso. Ma più forte l'alternata è? Sì, si sente più l'alternata che la voce. Guarda adesso, prova. No, poco fa ci vi meglio. Vabbè, tu controlla bene che intanto mi mangio il coso, l'amaretto, va. Sto pure a controllare già, giù, sono in pianto, fatti uguali. Hai provato un'altra radio a vedere? Ma no, come c'è il Multicom? Non ho parlato con la tua, ti ricordi con quella che hai tirato su? Sotto la mia qua, uno di questi giorni, su questa tavola è stato accendere uno, due, uno, tre. Io ne ho due e uno, che c'ha bene, via, cioè uno e due. Ma lei sta amaretto, sta con l'amarognolo. Guarda adesso, grazie, ce l'ho la pernata. Sì. Pronto. E cosa c'entra l'impianto? Ma ammazza neanche quell'impianto. Cioè. E nell'antenna la c'è la massa. Bisogna rimanere. Cosa? La penna non è bisogno di massa. E prova a mettere un filo in più dall'antenna alla ringhiera, l'unica attaccata alla ringhiera. Sì, la ringhiera. Prova a collegare un per uno stazione di filo a vedere. Dall'antenna alla ringhiera, magari in un punto dove è ruggito. Fai la prova e non lo risolvi, no. Johnny Mari, Tore Mormizzo, sì. Guarda un po', grazie. Ho attaccato un filo alla massa, alla ringhiera. Di meno, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basso, basso si sente. Vedi che dall'antenna alla ringhiera non c'è massa. Non fa massa bene nella ringhiera. Sì, ma l'antenna non ha bisogno di massa. Quella che c'è Gio Maria non ha bisogno di massa. Scusa, adesso c'è ma è leggero. Poco fa pare un trombone. Se no comunque abbiamo risolto, dai. Sì, qua, questo passaggio quasi quasi non l'ho sentito. Vabbè, anch'io te lo sento di meno a te. Ah, pure io, ma lo so, sarà allora perché siamo anche vicini, boh. Sì, poi saprai da Gio Maria, gli altri, vediamo un po' se mi ascoltano bene, boh. Prova a chiamarlo tu a Gianni Maria, l'ho chiamato, di noi su Raghenne e si le rivende sotto i baffi. Buono quella maletta, morbido morbide, soffice soffice. Gianni Maria, mormito sì. Non si può disturbare, no? Bobo, grande ma niente. Tra un po' con i fuori all'aria, grazie. E a te mi sento 5 minuti che devo fare cosa, se no adesso piove, che c'è la roba. Sai che adesso è rimesso come era prima, l'alimentatore vicino, si sente? No, strano, non si sente nulla. Meglio così, eh? Allora, un problema di massa. Ehi, io adesso non accetto niente, riprova. Allora sono stato compreso in brutti, non sei figlio. Non stai uscendo, esci malissimo. Oh, male sto uscendo. Adesso sei uscito bene. E infatti come lo metto a potenza alta, esco male. E lo rimettere così, sta qua, è perfetto, esci benissimo. Ma io la potenza è a zero, è chiusa. Adesso non sei riuscito a far niente, malissimo, ma non si capiva niente. Ma non è che è il pizzicino. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. Sei uscito tutta tra tetti, proprio tra. Ah, bobo. Ah, sei uscito. Tutto l'altro tra tre, tutto così, non si comprende la usa. Ma non è che il filo del microfono, no? No, te l'ho sistemato, capito? Allora sì, alzura, no, prova di nuovo. 1, 2, 3, prova. Non te l'attaccare vicino alla bocca al microfono. Guarda, 1, 2, 3, prova. Così sei uscito perfetto, riprova. 1, 2, 3, prova. Così andare, allora non te l'attaccare alla bocca, poco fa attaccato ce l'avvi. Poco fa era attaccata alla bocca. Non va bene, questa distanza che c'è così, sei pulito pulito, riprova. E via, 1, 2, 3, prova. Una bomboletta, Va benissimo così, a me sta dando pavigliato il visino, riprova. E vabbè, non si fa vicino, da un po', 2, prova. Vabbè, adesso l'ha fatto 2 o 3 volte, fru, ha fatto. Dal microfono allora, dai. Allora è dal microfono. Ma non è mai che più un mezzo dagli usato, no? E poi si tocca o non tocca, magari come ti muovi. Sicuramente, guarda un po'. Così sei uscito bene, ed eri fermo. Tanto me lo porto a casa, me lo controllo il microfono. Controllati anche il filo mio, a chi ti vedi girati, dici, si braseggheggiano, io uno ce l'avevo buttato, era tutto marcio, l'ho stirato e mi è rimasto in mano. Niente, adesso non si è capito niente, proprio a tratti. Ho detto che lo rifaccio a nuovo dal microfono, è lì all'ingresso del microfono, dai. E Beh, adesso se ci sto bene poco fanno. Parola tu. Sempre una vennega, andre cose, sono vecchi. Se io non ho fatto quello che mi ha fatto su, quello che c'è una cosa regolabile, solo lo fatto come fanno gli affari, capito? Prova ad adattarli quello, quello era buono, il coso. Adesso non mi ricordo come si chiamava. Quadrata, quello era buono il microfono. Ha fatto tutto. Quello che hai adesso. Allora è Loki, quando fare Loki, dimmi il quartiere. Strano. Vabbè, non per stranuta, è per dire, io il giorno che ho portato quella radio da Antonello, che gli ha abbassato la potenza, era un bombone in casa di Antonello. Fare no, che l'attacco da 5 minuti era come te prima. Cazzo, cosa mi sono vantarmi, no, Gaggi? Se si che da funzionava bene, arrivi no che non funzionava più. Vabbè, basta che l'hai messa bene. Io stamattina sono andato a farmi le analisi, mi stavo guardando la mia da lì, da là sopra le scalinate. Mi pare appena lei da un po' di barriduccia, mi pare, già era sorta, però non lo so se era così sorta. Un po' pulito l'aria. Vabbè, aspetta, entro tra 5 minuti, se no no, che piove e da me un casino, aspetta. Vai, vai. Prova, 1, 2, 3, prova. Gio Maria, ci sei? Gio Maria! Quattro. Eia, adesso ci due. Gianni Maria ha tratto. No. C'è trome bocco già, per carità. Avaro chiamiamo il signor Gino. E allora, sono dormito. E allora, chi dato non ventra più, flippero. Cazzo, 12 messaggi, aspetta e guardo. Mia figlia mi ha mandato le foto di Gida, che era minore, no, che va una tazza di plastica in bocca, no, che è a base di proprio vicino al telefono, quest'altra è al mare, e la poi rubata in alto, e adesso il ragazzo, e no, che a base la telecamera dello telefono, usata in terra con la recce dritta. Poverina, chi veda. E qui è sotto l'ombrellone al mare, cutrulleni, e io che la brandina abbaia in sempre la telecamera, chi veda. Adesso le faccio vedere a Paoletta, mi no che gioco bugiardo. Io e Paoletta sotto l'ombrellone e dentro mi dannata l'asciugamano suia. E dormite e io gioco cuccato con la bandana in campo a ciasso e io che abbaiene chi metta con la ringabura allora gli faccio vedere la Paoletta qui è vicino alla stufa mi dico che è finita allora gli faccio vedere blu ehi io sono qua vai c'è in camera, se sta facendo il crocifisso, glielo faccio vedere. Ehi, sto qua. si veda che poverina, non fa mandartela, se no te le avrei mandate, non c'è quella freccetta a mandarle, boh, strano, esce a vedere, boh, non fa, non c'è la freccetta, come mai? Devi cliccare sopra la foto, sopra la condivisione, la condividi su WhatsApp. Allora, c'è un formato quadrato, ci sono quattro foto, ne schiaccio una e poi giri piano piano e le vedi a una, però la freccia, quella che c'è per dire ecco, c'è solo una fotografia, clicco la freccia, esce l'altra facciata e schiaccio Luca, Luca e te la invia. E questo come faccio? Non ce n'è freccia. Come faccio a inviarti? Le scritte una volta di un nome. A una. A una a una. E come faccio a inviartela? Adesso provo. Non c'è la freccia, come faccio? Aspetta, tengo premuto sopra, lasciami vedere. Nuda. No, non esce a inviartela. Esce, no, mi esce il bidone della mondezza. Ah, la freccia è qui, forse io ci provo questa. Ehi, a sé, mi la prima ti manca. Ecco, una te l'ho mandata, adesso provo l'altra. Prova a vedere se è una sola. No, due. Due, quella col bicchiere in bocca e quella di sotto. Quella del bicchiere in bocca e quella di sotto, sì. Aspetta, metto le altre. Guarda adesso. Sì, c'è il piede sopra. Un numero Maria e quindi con la zona di Gulucca, mi sono fatto la campagna. Solo quella del piede sopra ti ho mandato. Via. Aspetta, ti mando l'altra. Ciao, sei un po' con casinista. Vabbè, Giulio. Ciao Luca. È un po' di casino che prendi stasera, ringraziarlo. Boh, boh. Sempre casino fatti, tu. Dimmi un po', come mi ascolti? Benissimo, benissimo. Radio bella, pulita. Ah, ok, ho messo l'antenna fuori, dai. Sì, la ringhiera l'ho attaccata. È fatto bene, va benissimo. Cosa hai detto? L'antenna magnetica? Oh no, la... non mi ricordo come si chiama, aspetta. Si chiama la Storm 27. Ah, ho capito, col bastone, ho capito. Sì, già arriva, dai, già esce bello, la radio già esce bella. Il segnale non è alto, è basso, però la radio è bella pulita. Guarda, ora segnale. No, adesso hai rovinato la radio, ho aumentato il segnale, ma ho rovinato la radio. Luca, arrivata, ci sono le altre. Ehi, guarda, sto giù, sto uscendo. Giulio, l'hai sentito? Ciao, ti ha chiesto, sta facendo bene, male, sono uscito Luca. Sei uscito malissimo con Luca, prima andava bene, ma adesso no. Quando di quanto è stato male? No, e adesso sei tutto ostacolo, adesso va malissimo. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. Adesso va benissimo. Se mi avvicino esce male. Che vuol dire tu? Ma vicino all'antenna sì, tu vicino all'antenna sì. No, non è fuori l'antenna. Allora ha problemi di microfono. Sarà il microfono, non lo so. sicuramente. Perché così ti sento bene, no? Non ci sono problemi. Se poi ti avvicini e satura proprio quasi quasi incomprensibile, allora sarà poi il problema, sarà nel microfono. Suppongo che sia così, non lo so io. Leva, ripetiamo. Aspetta, chiudo la finestra. Ma si sapeva che pioveva stasera, Stamattina io avevo visto il meteo e mi ha detto chiaramente che stasera pioveva. Sì, a casa già non entra. Vabbè, quello sì, è vero. Si dovrebbe fare anche con una certa consistenza. Adesso non so se piove qua a Sassa, però nel così a nord Sardegna e nella parte occidentale un pochino forte dovrebbe fare, non so dove, ma lo farà. È un bel effetto, un bel. E la rugheru, te l'ho detto, dovrebbe, e non sbaglia, non metti a non sbaglia. Io tutte le mattine alle 7:30 vedo il meteo e il telegiornale del video di TG3, dai, di Radio Sardegna, di TNG Sardegna, per cui già dalla mattina sono già informato. Ma il bello che domani ha messo il sole. Da un giorno all'altro può cambiare, certo. Adesso non lo so com'è domani, però penso che migliorerà, speriamo. Fatto controllo, aspetta. Oggi ha messo pioggia, domani ha messo sole, vabbè, nuvole, sole, la nuvola, lunedì ha messo 22 gradi, martedì ha messo 22, mercoledì 21. Ok, adesso guardo anch'io nel telefonino, adesso lo scrivo, vediamo un po' come fa qua. Domani 18 gradi, precipitazione del 20%, umidità 80, vento 8 km orari. Domenica invece sarà soleggiato tutta la giornata, sicuramente. Vabbè, già fatto in terra. Meglio così, sono contento che domenica è bel tempo, perché devo andare a vedere la partita, per cui stiamo bene così. C'è il fitto, domenica soleggiato, per cui va bene così. Sì, ma infatti, va, grazie a voi. No, stavo chiudendo le finestre. Beh, comunque, grazie. Stazionarie così sono 1 e 1. E io ne ho 2. 2 e 8. Cazzo. E adesso sono assalti, e più quelli. Va bene, mi senti, Luca. Cosa, Giulio? Ho detto se mi senti bene con quell'antennino. Sì, tu li arrivi benissimo, Giulio. Io ho un'antenna di poco autocostruito, tipo canale a pesca. Perciò così l'ho fatto un anno e mezzo fa, dai. Così dopo l'avevo messo lì a provare, internato, e l'ho lasciato. E ne ho tolto la mantovatubo. La mantovatubo però funzionava meglio perché era molto ma molto più in alto, era 6 metri più in alto. Questo è a livello del pavimento, c'è 1 metro di tubo appena. Tu immagini dal pavimento, l'internato, 1 metro di tubo appena. Segnale 9 c'è da me. Vabbè, no, e poi sono scendendo bassissimo, anche di watt, bassissimo di watt. Sì, lo so, già funziona, mi è uscito al primo colpo, al primo tentativo, mi è uscita l'antenna a posto, stazionaria, niente, nella norma, insomma, 1 e 2, per cui va benissimo. sì, ma è qua. No, vabbè, sei quasi 9, dai, quasi 9. Tra 7 e 9. Ok, beh certo, è così l'antenna che hai tu, l'antenna che ho io, perciò non è che si può pretendere più di tanto. Ebbene, sì. Ma a casa ce l'hai sempre l'antenna, sì? Sì, sì. Ma dove a casa? A casa sua, a monte, no? No, a qua sono a Pisa. Già lo so che sei lì adesso, già lo so, ma dico, a casa ce l'hai sempre l'antenna. Ah, sì, beh, certo. Appunto, lì è tutta un'altra musica, già lo credo. vabbè, adesso provo a portarlo qua, quel baracchino, un paio di giorni. Perché no, se è a posto di stazionario lo puoi anche portare, i problemi non ce ne sono. Giusto, approvato. Approvato, certo, ma comunque anche questo sempre stato benissimo, chiaro, pulito, radio 5. Già va bene, la radio normale, va bene, dai. A voi se va bene, capita. Altro che... Che poco fa c'avevo alternata, ma adesso Graziano. Aspetta che stavo un momento senza parlare, mi dice se c'è alternata. Giulio, aspetta. Vai. Ma è una cosa quasi di nulla, ma proprio appena, lì. Che non è nemmeno l'alternata, è un rumore di fondo e basta. Ah, già va bene, là. Sì, che va bene, la voglia. Se non ci sono stazionari va benissimo, ma puoi utilizzare tranquillamente. No, prima non a 3, capito? Prima non a 3. Adesso manco scalda dietro, lui scaldava un bel Giulio, non potevi mettere manco la mano. Lo credo, se c'era lo stazionario a 3, già lo credo che scalda, capita. Diventa un braciere, diventa. E così è anche rischioso, perché si è bruciato in aria. Aspetta, freddo, freddo, bello, cioè freddo, freddo no, sì, fino ad dai. Ho capito, no, già va bene, va. Già andare, lascia stare, che tanto per fare quattro chiacchiere, ce ne avanza anche. A voi, adesso per qua, a me non mi interessa arrivare in capo al mondo. La stessa cosa ti dico io, quando mi sentono sono già contento, a me quando mi sentono poi chi se ne frega, se non arrivo con un segnale alto non me ne appuccio più nulla, è interessante che mi sentano bene in radio. Infatti io sto aspettando la 25, mi è andata in campagna, è andata a portare gli olive a macinare. Ah, ho capito, sta preparando l'olio, andare anche quello ci vuole, almeno roba sana, non come te che sono tu che vede lì nei supermercati che fa schifo, quello San Giuliano è già stato lì, ma costa 11 euro, 12 euro costa una bottiglia da un litro. Ma carità, no, guarda che è un olio buono, l'ha fatto l'anno scorso, il primo era Verdone, ma era buonissimo, l'ha finito. Praticamente ne ha dato la metà a noi e la metà ce l'ha tenuto lui, perché a poco, no? Lo so che fanno così, certo, va bene, interessante, ma quando c'è soltanto per tutto l'anno va bene, poi al prossimo anno si raccolgono di nuovo le olive e si ricomincia da capo. Bene, sì. Allora, cosa dire a tutti, va benissimo. Va benissimo così, alla grande. Dai. Ma non so nemmeno se ci sono partite, devo controllare poi se ci sono partite di calcio. Mi sto occupando di indigestione. Vabbè, intanto lo vedi giù per questa. E allora mi guardo le partite. Positivo. Già va bene, dai. Io quest'anno non ne abbiamo raccolto, uno che punta male, è un bel punta, poi non è che ne hanno fatto molte come l'anno scorso, E poi cosa ne posso? C'ho ancora l'olio io, per tutto quest'anno già mi basta. All'altro anno ce ne avrà a fare da. Non è che ce n'era una volta quest'anno, poi abbiamo messo le reti, quelle che c'erano sulle reti, che non hanno fatto il subento. La gabbaità di da lì, mezzo prato, che già con l'eva che ha fatto. E allora niente, al prossimo anno, così al prossimo anno e sono più carichi. E allora, abbaia battiglio, andare con sorta e con pareggia, l'olio, motore per la moto zappa, il motocoltivatore. E invece si gonfia l'insalata, Luca. E allora, ciao Battiglio, buonasera. Buonasera Luca. Ma in macchina stai rientrando, stai? Sì, sono in casa. Sto andando con una palazzo da due volte. Sono un pochino sottostimito. Adesso ti sento, sì. Basta, ma già ti sento. Non me ne so problema, a tutti i dini. Ieri già eri perso formidabile, una bomba ieri. Ah vai, hanno abbandonato un cavallo di campagna di Zuccio e l'hanno avuto morto di stenti, di fame e muso, poverino. Che suoi ragazzi su sicuro, ti ha detto qui, ah vai, gli sei abituato a non mangiare e muso, capita. A te immaginate, oh, che sei volte che stai giù su cinque, grazie. E allora, miserabile, cazzo bastava a vendirlo a regalare la cacca di un gruppo di amantini, invece l'ha abbandonata e molto di fame sono cavato, imbecille che... È stato imbecille che tu è. Comunque il padrono è andato a fare e casa in posto d'ora. A chi dal chip l'hanno individuato, il padrono. Adesso viene denunciato per maltrattamento agli animali. Già lo credo, Dio aveva fatto fare la fame a me si campava, imbecille. Cazzo non lo puoi mantenere, regalalo, se non riesci a vendiglio. Tu regala a qualcuno che va alla campagna, che gli dà da mangiare e lo denero cavato, imbecille che per carità. E ma com'è non è molto buono, anche per un po' vera, e il suo burro era dello stritto. Le guardie zolfere l'hanno salvato, gliel'hanno sequestrato, se l'hanno buttato. Adesso lui, il cavallo morto, lo deve rimuovere, avrà Edoardo pure un po' di pesi. C'è anche il pony nella fotografia, vedi che interra molto e il pony è appena più distante. Altri vittoria, ce l'ho visto, vabbè, se alla moglie la ha battito, se lo buttava a campagna, se lo buttava e non l'aveva entrato a mangiare, ah battito, che vito era in campagna, un bel cavallo. Infatti, sì, è perché si è abituato a mangiare, è molto, ma si immagina, si può un cavallo, però bisogna essere efficienti, abbandonare il cavallo così in una campagna, all'aperto, a lampe, a troni, senza essere alimentato con un fieno o cosa da mangiare, nuda. Si deve mettere anche di mangiare. Ah, ma non credo che non è molto buono un padrono, e te Nariccio, posso dirti un segreto? Elida, dimmi cosa è successo. Elida, ti ricordi quel ragazzo in discoteca? Elido, beh, sono incinta. Elido, ma dove avevi la testa? Sul cruscotto. Ma è il movimento, no? Così, così, per essere ancora più fantastica la situazione, pure in marcia della macchina, andende. Allora, capitalai, Bacchi. Buonasera a tutti, tocca al tasto. Ciao Tore. Buonasera, tocca quel tasto. Graziano. Eia, ciao Tore, ti ho chiamato poco fa. No, ero Venegosa. Adesso me l'ho messa da parte. Un altro giorno me lo continuo. Ehi, allora se ti ha interrotto, hai visto? Ah? Si sentiva trrr. Deve essere qua vicino, deve essere. La stazionale mi si sono affatta, c'è più venni, quasi tre. Se no la buona appunto chissà cosa, il tempo anche se è così, che bella la giornata, la devi mettere a posto, perché se no ti sta stasera. Appena c'ho tempo, adesso non fa, oggi è da fare gli analisi. Ecco fare già di là la vita antenna, no? No, non ce l'hai fatta giù, l'hai fatta zuppa, l'hai fatta, è una vita tagliata con 15 centimetri. No, ma non è davanti. È il capo che gli ha aggiunto la prolunga col bombolotto, il bucciolotto, cosa lo puoi chiamare? Partito sì! E che facendo stai? Era giù c'è Gianluca! Ciao sto! Partito sì! No, sono dormito, sono sveglio! Te! E l'altro pure si ne beh! Grazie, chi sei matto a te, mi? E allora Luca, se ti mando un video e mi dici se ti piace. No, ne, come arrivo da te? Come sono antenna fuori, com'è? Che grazie a Dio, la base chi sei tu? Già va bene, dai. Giulio già mi ascolta. Perché bene, mi ha detto, va bene così. Ah, Gucci, tanto per parlare tra di noi va più che bene. Luca, guarda quel video. Comunque arrivi lo stesso, Tu in qualsiasi posto arrivi anche se fuori. Vabbè, andate fuori. L'unica cosa che mi dispiace è che il campo me lo sta piacendo la finestra. Perché mica posso bucare la finestra. Luca, guarda quel video che ti ho mandato. Sì, sta caricando, sì, dai Luca, riga. Però poi viene Marina e non te ne fa vedere, ci chiude la giusta. Guardatela. Sta caricando, aspetta. Eia. Signor Bacchi. Signor Bacchisio! Se deve essere staccato! Vanno mamma Giulio! Ciao Tony, ci ho salutato poco fa! A me è basso! Ti ho salutato, ho detto, poco fa! Ah, sì, no, ti stavo rilanciando. Ok. No, ho mandato uno che prende la pensioncina a Graziano, gli ho mandato un personaggio che prende poco di pensione. Bisognerebbe impegnarsi e fargli aumentare la pensione, o meglio la pressione, dobbiamo aumentare, ecco, che è meglio. Che andiamo bene, andiamo. Giulio, non ti domanda a te che c'è un video, che tu sei candaroso. Ma Danilo, che non sono io candaroso, non sono un graziano io. Ti domanda, zitta, ci sta gatto un barone. C'è il vizio, papà, carità. Allora, te lo seguo io, Giulio, questo qua è uno che ama i piedi delle donne, paga ogni qualvolta che lui vuole vedere, baciare o che cosa, per vedere 10 euro, per toccare 20 e per leccarsi i piedi di una donna 30. poi te lo seguo. Sto guardando che se video così può mandarmi, Luca. Aspetta però, a lui non gliene frega niente, sono sporchi, sono puzzolenti, lo fa lo stesso, Per lui fa tutto fabbrolo. Salve Gabbo, Uniamo. Ma io dico, sono tre malattie che si prende. Ma anche se una cammina nella strada che vedrà niente pini, dietro un piede si rifare, si rimane in bocca, non è appuntinuta a dire. Ma non è sano, regà, ma basta dirlo, in faccia, la faccia di Marco vedrà. Permesso. Vanti. Buonasera a tutti, belli e brutti. Cosa è successo, signor Bacchi? Ciao Mattia, adesso sì che sei tu. Giulia, sono salito su. Perché giù è arrivata gente e dunque mi ha detto io mi avvio. Così è arrivato bene. Così almeno si sento bene. Perché poc'anzi mi sei sparito anche voi. Era troppo basso. E con l'antennino dove fate? Non mi da dire che dove fate con la radio. beh certo, io ne ho uno da un watt, lo stesso, ho tre canali, ma c'è un'antenna sua incorporata, o quella ha tipo un cannocchiale, che è lunga, sarà io penso 1,50 m, una cosa del genere. Era una, aspetta cos'è, era una faiette mi sembra di sia, se ti ricordo bene. Però c'è anche l'attacco per l'antenna esterna, volendo lo potrei usare anche con l'antenna esterna. Ti avevo avuto quella faiette, conosceresti se c'hai? No, no, il mio è marroncino, non è celeste. Ultimamente mi ha chiesto un cacano senza vederlo, dentro lo scatolone se l'avevo buttato, ecco, l'avevo scippato in un posto. C'è la faiette, era celestino, con l'antenna telescopica, l'antenna ce l'ho l'altro, ce l'ho buttato qui, e ci cambiamo i quarti, era quarzato, sei canali. No, il mio è solo tre canali, il mio è di tre canali, un watt. Sì, i quarti ci sono, certo, posso sostituire i quarti e avere altri canali, questo sì, però ne ha solo tre. Ok, avanti Luca. Poi ho i sei canali, quello della cosa, come si chiama, nel pony, in barghizia, che ha il microfono che è in ascolto anche, si parla e si ascolta sempre dal microfono. Sì, ha pure sei canali, c'è qua davanti, però mi manca il microfono, mi manca. Io baracchino, quello lì aveva, mi sembra, 6 watt, 6-7 watt aveva, perché era stato tirato, ed è il primo, proprio in assoluto baracchino che ho avuto io. No, il primo che ho avuto è un Pace 123A, 23 canali. Ho capito, no, il primo il mio era quello, 6 canali, che l'avevo dato ad un ragazzo, perché lui era praticamente un amico di mio cognato, che a quell'epoca me ne è venuto e voleva una cassetta per mettere gli altoparlanti per fare la musica nelle cantine, allora si usava andare nelle cantine, sai, ragazzi di allora. E mi ha detto, però soldi non ne ho, dice, ti do questo baracchinetto, ti do in cambio. E gli ho fatto due cassette, e poi col dato parlante, l'ho fatto andare, naturalmente, il dato parlante me l'ha dato lui, non è che glielo messi io. E in cambio mi ha dato questo baracchino. E così è cominciato da allora. E infatti, e così si comincia. Cosa che c'è poi? Graziano, ho sentito, Graziano va. Ehi, una schifo, stavo guardando su internet, in via Sorso, tutti i dumbini imballati, tutto mondezza, invece di punirli dressero il cacciolento, tutta la mondezza spazza in terra, tutto buchi, sa strada, la gente sta protestando, un montinaggio è tutta l'Italia un mutinaggio, se non lo fa mettiamo in Roma, la capitale dell'Italia, fa carità, che vergogna. Pucci, su internet adesso me l'ho visto, via Sorso, un gettito, i dumbini sono tutti intasati, si piove come un incivale a leva, che no, sono pieni di preti tutti incrassati, non vedo un buco baffarazzo di leva. Ma che dai, da poi si lamenta che andò a venire le cose, come si chiamano, i lupi, si lamentano che non scarica l'acqua e incominciamo a usare la barca poi, ma che dai, non è possibile, che vergogna, ma non solo in Sardegna, è tutta l'Italia così. Ma dico, è la strada di una voce, ma quando mai, boh, chi su capolaino che faremo, non sa vita che condizioni è che sta via. Non fate ma cacca, ci piove chi vi sa la cacantove, ma guardate, gli altri fa la giosso, ma mi ne appunto, che vi basta, la vacca vi vuole passare, e tutti questi casi che vi sono vivi, a pian terreno, chi vi sa la cacantove. Per carità. Ma è la prima volta che sono al Magaro. Anni fa, quando si era andato su, aveva fatto un burro di morte, mi pare, aveva fatto un andamento bene, ma mi pare che aveva fatto anche molto burro. Ma io sono risale a cassato, è cassato. Diversi anni fa, forse 20 anni, 25, non so più preciso, ma comunque era successo. In via Sorso sto dicendo, non a Sorso, in via Sorso qua a Sassari. Ma io sono un imbecille. Ma non è un sindaco! A maggio non bisogna più, perché mi pare che a maggio bisogna mutazioni e se che era niente io penso che adesso non lo vota più. Non va più a maggio. Com'è che non pensa? Un sindaco deve stanziare i soldi a pagare, come sta pagando le cooperative a farle a quelli da Mondessa e a farle rattoppo di Ribucchi a Sassari, non lo deve fare un comune chissù. Io lo so, ma va chissù, alle nuove votazioni che saranno a maggio, per il rinnovo del consiglio comunale, eccetera, sicuramente quello non sarà più eletto, io penso che sarà così. Non credo che la gente possa essere contento di come ha lavorato, non lo so. Comunque, adesso ti dico io, mi ne appunti, interessante che mi arriva sempre la pensione, gli amici, la borba, non riesco che si ne appunti. Ormai, hai imparato, non mi arrabbiato più io. Oh, chi ci no, ma stavo rispondendo a Tore, che ha detto, Tore ha detto, lo sindaco non va entrando, già che lo devi fare allora, lo sindaco va alla responsabilità della città e di tutto, di la Mondessa, a chi la parte non le date niente, e allora... Non sindaco non va entrare, che va entrare l'assessore che si nafuti, hai compreso? È l'assessore che ha mai da tutto. Domanda all'assessore a vedere di cazzo è. Ma l'assessore, tu andi dall'assessore e l'assessore dice, scusa, se il sindaco non mi dà di dinare, non mi state a ridinare, fa pure comandare a chi cooperativi, a chi non abbacca, a chi si giorno, a chi 8 mesi, non hanno 8 personale, cosa vuoi da me? Andate da un sindaco, voi ci dice l'assessore. Allora, prova a leggere il giornale di Cumanzano, sul rigamio e sulla mia testa urbana, vedete cosa si offende. No, non l'ho preso oggi il giornale, cosa hanno fatto? Chi mi virà la cooperativa, virà la raccolta della Mondessa. Ma virà la cooperativa, virà la ditta, virà. Se per voi è una ditta, virà Ambiente Italia, virà. Ed è una ditta, ed è da chi si oppone delle cose, i sorveglianti, chi bisogna, i carrelli rimane sempre brutti. Se deve ne si dà, direttamente l'assessore deve avere in mano pure i cosi di tutto quanto. Fa ci dà che sta gente di radizza, è ditta che vuole e non ti va a travagliare. Quindi se ne affutti e non ti va a tenere nulla, hai compreso? Vedi che si andano in giro con questa banda a controllare, a usare i ragazzi, in un circolo, se no ragazzi, i noghi, prendesi un giriguevo. E poi che se ti sapete dire le cose, chi si naffutini, non hai compreso chi si naffutini, e poi che si dita, prima era l'anno basso che non me ne si canta due, sai come tira, vai a un sorvegliante che controllava il sorvegliante, ma manco più che su, e se ne affuttenni. E poi su via è meglio, così no, oggi sono tornato a passare, a pure un'altra vera, mi sono 5 bici buoni, randati, l'hanno abbandonati, giù un abisso di cani, e si accattano i cani minori, l'ammazzano, cani, gli api, che si già sta a pensare la gente, ma c'era, non so se era sul giornale anche, erano anche a latte dolce quei cani, 5 pitbull, si danno in lampade e sono in giro, fanno i danni a destra e a sinistra. Oggi c'è bisogno di chi si deve ganire, vieni a pigliarci lì. Chi si dice che di non c'è poi qualcuno a morto di cose, di gente. Oggi c'è abitudine, ha già visto di bruno e vice, ha già visto di io. Chi l'ha già udito, no, chi l'ha già udito. Sai, la mia figliola era di me, da pigliarci un dracchi, era lì vicino alla cura, e non qui. Più un'invera bemmata di Rodra, era nel rosso, a rosso, ai vivi, a chi hanno messo un cane cantese, si è fuggito, curato da mezzo all'anca, e correndo in buco, a tutta testa l'ha pigliato, e un altro minoretto come in nera, manco il vascone ha visto, da roba in cui sta tutto, fugge, da chi sono mari, mi. Chi se si gira nel buco la gente, mia, avrà vedere, chi se buono di bene, che cresce, con questi cani. Oggi già udio, con un cane mio, oggi già udio da anzi. Canale vicino mio, se cani avvicinati si sono avviati, piano piano si sono avviati. Oggi già maturi i vigili, se non fate neanche che cosa, oggi ti faccio un casino lieto di vostro. Stamani era nel ghiaccio a risette, gli ha cominciato a ghiaccio, andava a fare l'analisi. Mi sono cacciato e era nel ghiaccio rossa a rossa, con tutti i bicchieri che venne, ne dirà ancora, gli dico, cacciati una casa nel ghiaccio, voglio vedere la buia. E ora ho già avvisato i vigili, ti farà con il conchisto del canile a pigliarsi. Aspetta, si è passata sotto a casa di Dio, a me non me l'ha fottinuta, è così una fusilata, a capire un video non me l'ha fottinuta. Grazie, passa a fare musica lo due, se già vedete venire in bissà, dovete venire in bissà, fai se così. Hai già avvisato, vi so già 4 denunce, vi so, e basta ne chissi. Ma chi chiede stasera dovevi andare a pigliarsi lo dra, se devo lasciare un attimo a pigliarsi lo dra, fanno andare lì, a chi vi sono i cigani, boh! Sono anche tempi che prima tu stai già non fa faccio, prima da se di chi si ruga nude, sono anche tempi che tu stai già non fa faccio, magari ci mangia anche più fino. Giulio, vedi giù già avvisati di arrivare in vigile urbano, vedi già avvisati io. Vedi gli ha detto che bisogna questi cani, questi pitbull che sono pericolosi. Che cioè, stiamo aspettando l'ordine dal sindaco, mi hanno detto. Stiamo aspettando l'ordine. Se quando ne mostra qualcuno, vedrà che si muovono allora. Ha detto. Ecco, vi muovete quando si mostra qualcuno. Ecco, guardate che sono pericolosi. Mi. Se non volete la coscienza ancora che qualcuno morci di quei cani che sono molto pericolosi, hanno affrontato a me, hanno affrontato che c'è il vulcane, si figuri la gente. Beh, una signora no, che mi ha disparato a punire la maniera su cani, bovaracci e chibi, quello l'avevano crassato e gli altri ce l'hanno portato e quello l'hanno lasciato lì. Dice come si rivede il buggi subito, ma non è poco burro, tutto sul caldo, sparisce. Insomma, gli saltò la marimbo in un grosso marimbo, tra Mondezza, cani e pericolosi, giovani drogati e balle varie, in tipo marimbo in un grosso marimbo, che vergogna. Aveva mi sa che fossero un killer e ciuranotti e cominciò a fare un po' di burizia a pallettoni. Fa così, fa, gli anche mi sei. Bravo. E lui ha fatto quando batto in chiedi ha fatto in macchina, ma lo sicuro. Ma chi? Ma chi sono? Oh, signor Bacchi. Ha sentito qualcuno lì sotto. Era fuori giù lì, passando lì da Graziano. Sto trascendo dalla macchina e la signora quando torno non faccia prima con macchina la ciappi. Appunto, bisogna abbassare, è andata a velocità, bisogna abbassare il giro. Sulla maglia, fai a caricare. E cammina a passare veloce, che ci no. Puro si cammina a stretta, si ribicca nelle rossi. Che vergogna, ragazzi. Uno schifoli. Ora giocando hanno cominciato a fare grattacieli, e adesso cosa giudi tu, hai pensato. Io che sto sbagliando so, a fare questi grattacieli. Fa cosa? Fa che sotto, in fondamenta, dobbiamo fare pure una prigione. In modo che quando chi si sa parlare, o fatemi qualche cosa, vediate, avvisate e portate fuori sotto al grattacieli. Così era manco, ma che in chi stanno lì? Più duro si ne parlava, fa calendare. Allora, appena che si parlava, le bigiavi tutte e due, o tutte e tre, o tutte e due, cantelari, e ti ribuoni sotto. Solo che hai sbagliato il comune, ha fatto le case e si è salvata la galera sotto. Oh Giulio, ma ammetto che hai rubato il nostro, a 28 aveva arrivato il posto di polizia. Sono ancora correndo i ciburizzotti, hai cominciato a incendiare le macchine, a entrare la rete burutretta al posto di polizia, si ti vedi di foglia nell'ale buricucci, fuggiti, ma fuggiti. A te lo ricordi, ma chi tu, il posto di polizia è la Pedolce, Vittore già se lo ricorda, te la metti dove? Ma era una cosa troppo di gozzo, dai. Care dai, aveva bisogno, aveva visto che stavi a nevato più che sei gozzi. Ma siccome te la gente delinquente, chissà. Aghi di Maria me la metta ancora, l'850 coupé, color buccia l'arancio, che bisantrata la bevi, l'hanno incendiata, l'arancia al posto di polizia. Ma che non si è già abbigliato a Gesù, che non l'ha già rilasciato più morto che vivo in terra, in carcere, che non aveva fatto questa cosa. Ti rampenti, è il gioco che l'aveva fatto. Cosa vuoi dire che ti erano alzati in carcere, ti erano alzati? L'hanno fatto che in questura, sai come te l'hanno fatti? Tutta durore l'hanno fatto, che la giuvisci. Ciao, so, vera Bruno che è morto, la morte lo chiamava lì, non faccio nome, conosciuto là. Ma che dai, se no non ha pigliato chi si, ma se chi si è morto tutto pari d'ora è morto. Ciao, che era mammone, è riuscito a fuggire e lì a San Teodoro. Non aveva curato pure una bisciura, una guardia carceraria. Non si è fermato e l'hanno tirato, è morto, già è una di... No, non sai niente così, mi può subito una valle al fronte, mi può. E io si sta a fare bruttesi, a punirsi di 30 dalla magna gratis. E intanto dice gente, i delinquenti sono nati e delinquenti vanno a sempre tutta la vita. Perché pure se tu li fai va 20 anni di carriera, quando nascono sono sempre delinquenti e dunque pericolosi. E lì si mi può una valle al fronte, mi può per sai niente. Chissà a me mi aveva detto, Rugano mi aveva furato merce da Rugano, lampadari, che era una cosa, e l'ha giocubiato, sono andato a Castello, l'ha giocrebato una bulla di terra in faccia, pareva la giocatrice, pareva la chiusa una lampo, Maria, tutta la ridotta, questa l'ha negociato. La morte. Adesso non so qui, cazzo sta giù vicino, sei giù. Ma mi dori la roba, se no ti posso appesi. Quella roba non viene più, vendi, da allora ma ti vendo io. La giù con la pulla di avere la faccia. E chi va allora, sì. Ma è in casia, se è una cosa che c'è, ma è in visa, se è la morte. Ah? No, sta via chi mi ruota i dossi, chi? Sento che è diviso, io ho fatto a 14, in quello che fa la squadra, tutta la palestina comunale. Ma sempre cosa dico con queste equipe, quando lo trovavamo con De Luco, va via l'appalto comunale. E siamo andati a vedere un lavoro del bagno in casa sua. E mi ha fatto entrare a stento, a chiedersi che era in pigiama. E l'ho visto e ho detto, così, così questo non si può fare. E si è incavolato. E dopo che faccio lì, mi sono comprato di fare la pulizia, che lì aveva i buoni dei braccialetti. Ma lui si è pallisso, quindi lui no, ma quello che stavo dicendo io, abitava lì a Latte Dolce, proprio in quel palazzone, mi torre già lo sa, dove c'era il posto di polizia tanto tempo fa. Anche se a me mi ha bisciato la macchina, mi ha bisciato, mi ha frato lo stereo. Sono andato, ha detto dammi lo stereo, se no ti frabbineggio quanto vai. Dammi pure a dare lo stereo, ha detto lo dubbo all'anchina, ha detto. Ha facciato davanti gli noci. Ha detto dammi dare lo stereo, ti frabbineggio di un tutto. E mi ha atturrato. Io avevo buttato in giro una voce quando mi hanno invitato un cano, che l'assicurazione mi aveva dato un paio di una bella roba e mi avevano entrato in giro, così sono esci da Pizzo, no? Ed è uno da me a per arrivare, già lo so qua sono tutti. Ed mi è giunto e mi ha cremato la pulla in faccia la vita. Sai cosa mi ha detto il barostelio? E poi brigammi e ha detto mi prega che non ti potete andare al dubbo e ti faccio la tranca pure ti faccio. A vedere se mi l'ha atturrato e subito pure mi l'ha atturrato. Sarò compagno, ha sbagliato lo dubbo, ha detto lo dubbo a bocca, ero compagno buro, ha detto. A vedere se ce ne sono andata da voi. E mica non vale fa niente, non si varia un ciappo, non si varia, cosa? E cioè chi si gridia, un padre eterno, e mi ha sbagliato un mazzone a Barò. E anche tu ci ha dovuto punire i denti, non ci ha dovuto punire, ma ti ha fasciato i denti. Vedeci, se mi ha mollato la cosa, ha detto, se vengo con donna vicino a casa, da vedere cosa vi faccio io, alla prossima volta. E non ci scordo di riveci, che se ne ridendi. Per carità, va, gente, macca, già, riprenditi, macchi. E prendo io, dai, lo via l'avvisatore in mano. E così, è così. E ma non c'è niente, venuto che fammi, no? Non ho niente da perdere, tutto guadagno. Ehi, non so quanto ti conviene a pigliare colpi. Così è Giulio. Ma senti, di come ti ha truccato la canca, come ti ha fatto dolore, o il pulla faccia, non è che ti conviene assai. Però, ripeto, ma mi sai niente, è sempre buono, non mi si può fare. Ahi, si ripeto, mi vuole una mano al fronte, allora chi si ribotta la porta inferi e non fa di più danno a nessuno. Così bisogna fare. Già fatto i salvini, noi dura da sai, no, ma... Fa calendario, chi sei gente che vuoi pigliare da fare tappeti, è andato a mangiare di oro. E io ho messo il mio mano, chi si è mangiato? A chi non si è... Chi si è dato? Non si è andato a pigliare la vita, non si sa mai. Chiamavano nella morte a chi era dritto dritto un roccio vissuto uno scheletro e così cazzo un ciaffo ne ritaccava in un gambo ed era convinto anche se così a chi non lo sa è tutta niente che non fare un ciaffo a chi non lo sa che è così però oggi sono convinto sai a chi dice io sono coraggioso sì e ui, non ho visto di scene, quando va a amici via, lo a zimì, sta raduto, basta mi dice un pezzo di bomba, pieno di sabbia, mezzo sarrato, mi vedi i colpi, Giulio. Allora così è, guardi, all'interno se l'ha registrato, è ballato. No, quando era le 30, ma anche altre occasioni che sono successe, sempre cose che sarebbe messo in ingano, quando passava un camionista a conto mio e mi furava la roba a me, a un altro che travagliava con me. Quando capitava lì, mi sarà la Ianna. Oh. È così che mi stiamo a fare, allora. Così è che grazia. E allora se no fuggia, me la dicono che si fuggia, non hai compreso. E invece sta maniera sarrato non fuggia da nessuno abbatti, se ci ha solo a pezzi da ivi, in ambulanza. Se lo buttava il po' di malato. Scusate un attimo, non ho male, un ascolto che vado a farmi adesso. Ok Luca, d'accordo. No, perché stiamo monopolizzando la tombaia. Io e Don Graziano siamo due monopoli, siamo vero Graziano? E allora, adesso sto combattendo con chi sarà il pa, così giovane che faccio, ma fa pulire un ferro, così ti farei un rifatti, Luca. Cos'è? L'ha fatto l'acciaio di voi là? Capita, a questo secolo. Quelli che non vengono a voglia con Luca, che Luca è una battuta pulita. Ma va sempre magliazzona, dici. Torre, non andare chissà. Io non credo andare. Grazie, ma sento 5 minuti, ma sento. Se faccio lungare i ginocchi, ma sento 5 minuti. Vai, portalo, se no ti con un mosso là che te ne strassa un piede. Vero Giulio? Ragazzi, ma tu se si non andato a mangiare, se non andato a mangiare così mi che si mangia anche con faccio, non si sa mai. No, quando lo cane educato gli hai detto, il problema è quando attrappano i padroni di Lucani che sono disgraziati, quando Lucani diventa pericoloso. Comunque aveva fatto di un fuoratore da stare in TV, è quasi invisibile, parlava qui in una zona famosa, è davvero Bronx in TV, in una notte, è proprio una zona invisibile, non è possibile. Ma da poco non ha regato un furgone in occhi, e carico di bombole, se come lui non fa rimanere una bombola, infatti ha domandato a bombolo se era l'usurio il suo furgone, ma ha detto di no. Ma se siete bombolai, io conosco un paio di bombolai, quindi quando andare in TV, andare con la catena, le bomboli sono di altri, però non va di mezzo, dice, chi fa la cerroia, ma gioca nella catena e ne vuoi, no, le bomboli, ma se mettere i soldi, devo toccarlo in vita. No, anche se non hanno bigliato tutta la macchina, carica come intita. Due gli appresso, prima aveva la macchina da venire l'altro, uno era chi ci piano soccerve, mi ha detto bombo, e l'altro era chi ci di via Genova, lo bombolaio. Cioè, a questo tempo, fai di che no, non è possibile. Io avrei dalle Siviglia, e mi lo guatevi che sono più popolato praticamente di Zazza, no? Però se io ho mai avuto un negozio di bomboli, ma questa è chiamata a portare la bombola, allora che non si deve risultare, no? Se no vieni e se la prendi, se la vuoi la bombola, perché io in quel quartiere non ci vengo con motocarro, con la macchina. Anche le vedi qua come ti fai a Virdi, sì, lo principale mio. un carruzzo pulia una bombola e la leava a catena e ti riarregava con un carruzzo. Io sono guato, al mare la giuvizio, al mare la giuvizio, sapete come era il mare, chissà cos'è che era con parente, ci vuole il mare, fantosi il mare, è porto mare, proprio disgraziato l'uomo. No, che anda a controllare i breci, ti rimane lì, ti ricopri i fili, questo si figureggia a Edo da bus. Controlla i breci della merce, gli fa Edo no, canto vedi, canto goccia, le canto non costa, le compreccio. Sì, allora, ma veramente, se parli strano, appunto la veramente la piccola è più cara di canto veramente i bambini. Da poco l'ho comprato, presente me l'hai un lucchetto della Serranda, che sul bossetto si buoni fabbricato in marmaro eccetera, no? E l'ho pagato, da bambino l'ho pagato, 35 euro, allora sai quanto costa? Solo il bossetto, non un liscio, senza un lucchetto, solo un bossetto. Da me come costa? 41 euro, ma ho visto tutto da salire. E l'ho pagato, 35 euro da bambino. Come mi sa che l'hanno aumentata la cosa, perché ho guardato su internet due ruotelline per il carrellino, oh, come ha già baitato il costo di 15 euro l'una, su internet 8 euro costano, precisi le gomme, e anche il trasporto gratuito tramite Amazon, due gomme 8-16 euro mi vengono, e la bricome costa di 15 euro, a via vai! Sì, io lo so qui, hanno aumentato il prezzo, la piccola ha aumentato un bel prezzo, però questa è soprattutto la parlamenta, ad esempio, vai ad occupare della maniglia della piccola, è costa poco, tu presente mi ha l'ubricio di sicurezza, che si vuole altre esterne, no? Che si cruci, l'umottura, questo ubricio da bambini costa 75 euro, da piccola costa 100 euro. Di questo mi pare ne ho uno o due in garage che avevo recuperato, però bisogna comprare il cannonetto, ce li dovrei avere in garage, nuovi, uno mi pare che la burgoleasse, mi pare, deve essere il viaggio in garage, deve essere battuta in garage, presso una fattura. Però non c'avevo le chiavi, erano di portoni vecchi che ha già mandato piazza di portoncini blindati, erano buttati vecchi là da me, se la giocava dal buco in campagna e i bricini l'aveva smontato, però non mi avevano dato le chiavi. Lo cannonetto si è mottura, se lo bricio è della macca mottura, tu vai da bambini e ti date lo cannonetto con le chiavi. Anzi, se lo piatta è come a te, perché se commessi che mi sono se lo piatta niente ma a te. Però deve essere mottura, che sono di altre macchine non finiranno nei ricambi, eh? No, tutte e due motture, chi su triangolino a freccia, queste motture, sono della motura, quindi deve avere in garage in qualche cuzzuro. Sì, ma è uscito, tranquillo, vabbè, comunque, ma poi dici no, solo che costa, un garonetto costa abbastanza, perché tanto male compara tutto l'uomo su l'uomo. Sono presenti, chi sono con le altre grosse, chi su, o altre esterne, chi su costa 75 euro da bambini, e da qui come costa 100 euro, 4 bicchieri, no, 5 bicchieri, 4 o 5, non me la metto, 4 mosse so, 4 euro scrocco, costa 100 euro la cosa, mentre invece da bambini costa 75 euro. No, anche uno di quelli recuperati così sempre della mottura, però è a due passanti senza avere pistoncini, giri e va là, se no chi ce l'ha fatto così, per interno era, quello lì gli ho piazzato il cannoncino io, me l'aveva fatto proprio Palmieri mi sembra, e me l'avevo piazzato nella basculante del garage, infatti mi raggio in un garage piazzato, orizzontale non l'ho piazzato, quando io rientro in un denaio. Anche comprito, sì. Sì, ma è così. L'unica cosa che si può comprare da qui come di ferramenta puoi comprare solo ed esclusivamente di viti. Li viti sì, a chi altri li viti la bottina, di viti e te la vieni tanto di un paio di piante, e mi sta d'orlo. Li viti scompare di più da qui come che da bambini, li viti. A chi si tu anche da bambini, li viti a pacchi, li viti costa un sacco di denaro. Invece da bambini, da qui come andi e ti viene la bucca, ti viene e costa di poco, costa di, e ti viene la misura che vale di piante. Invece da bambini è così, a seconda della misura va un brecio, è un pacco di viti da cose, da 100 besti, da 200 besti, costa un sacco di denaro. Invece in chi tutti ti viene una bucca, ecco che sento per intenderli. Già lo so che le ho comprate io lì le vitti, a voi le ho vitti in viaggio. Una di secondo, mi raggio per da sentate, 30 la buccia, mi raggio per da piena, varie vitti là, quelle che insomma potevo utilizzare quando stavo lavorando, che mi faceva travagli a conto mio, e me ne avevo abbigliato vari tipi di vitti. Già lo so già, quale le ho prese sempre alla bricome? Sì, ma tutto lo vedo della ferramenta, basta, non conviene, assolutamente. Dico che come fornitura è abbastanza fornito, è la verità. Però bisogna certe cose che sono fugali. Però per altre cose io ultimamente abbiamo abbigliato la cosa, come si chiama, la smeriglietta, no? E devo dire che questa smeriglietta ci ha messo un sacco di travagli, ha sdogliato un sacco di ferro, ma ci ha messo un monteggio, ma ci ha fatto il ferro, 64 metri, è veraggio, ho rimonito sempre in butria, ma ci ha fatto una specie di rompaco e sarà il busto sopra. Quando mi serve di raggio, e te lo disegni, e ha rivelato che siamo retta, ha rivelato, che l'abbiamo pensato, ha rivelato Camuglio, la mia è da prima, quando mi hanno fatto ritrovare gli occhi, ha rivelato proprio Camuglio e me l'ha reclibata, sono andato per la recuperata, 35 euro, 36 euro, ma se dico che sta andando davvero, questo è una meraviglia, questo sì, si ha la bandiera, comprava una moneta così, minimo questa 70-80 euro, questo è vero. Già lo so già, perché mi avevo fatto fare le finestre in PVC color noce col vetrocamera lì alla bricola, gli avevo portato le misure e me le ho messe a una camera da letto e nel salone, e gli ho detto come sono i copri a nuba, metto color noce, no io li voglio color oro, non si buoni, no in dotazione sono quelli, e quelli là quanto costano, perché no, non me li dà via niente, dice 5 euro, e 4 copie a nuba in plastica, insomma, color oro, oh, 5 euro l'una, 4, 20 euro, più la maniglia in ottone, non mi ha messo l'altra la giubbagata, la maniglia in ottone, però quella in dotazione era in plastica marrone, e l'ho presa in ottone io, e la giubbagata è un bel... Tutto lo vedete, questa è un bel, un meccanico, scusa un attimo, grazie, mi hanno un attimo in bagno. Approfitto anche io, va. Bello, io batti. A mettere in bagno. Bobo. Oh, yeah. E poi ti rimane un giorno a uno. Ti andiamo bene. Buonasera, Buonasera, signor Gio Maria. Buonasera anche a lì. Aspetta, invece vi è ancora Battigio. Battigio. Buonasera Giamorino, buonasera, ben ascoltato, buonasera creatore. E sono qua già, non so dove mi rendi. Oh! Capito. Chi è questo lì? Chi è questo lì? Di qua c'entra col nome, mi. Giamorino, che facendo? nocciai. Sente, Macchi, altro colpo di Gianluca. Ciao Luca. Gianluca, fortissimo oggi, anche se fosse sotto il dito. Lascia parlare sotto la luce, se era venti sera. No, non sono qua andata a lavare, sono sincero, no. Perché c'era lavata, siccome un po' lenta a scendere l'acqua, no? Allora devo aspettare. Accelera allora, se tu ti cammini, accelera. Tra un po', e poi ancora presto, dai, usciamo verso le 7:30, 8. Ok, avanti Gianmarino. Ok, sta uscendo bene Luca, con la somma 27. Va bene, ce l'ho anch'io, grazie, con l'antennino, va bene. Poi non ne hanno stazionate le antenne, per cui può parlare quanto gli pare, gli piace, tranquillo Luca. Va bene lui, hai fatto bene, hai piastato e sei tranquillo. Bene, signor Bacchisi, hanno ancora piovendo, sa? Quasi, poco a poco, ma sempre andando. Ci voleva un po' di più, Gianmaria, era tutto asciutto. Tutti a fondo scala siete, tranne che Giulio, vabbè, perché è più lontano, ma voi tutti a fondo scala. Perché Giulio è a Marte, per quello arriva così. Va bene, sì, quest'acqua fa bene veramente. Il terreno è secco, così che ne deve fare ancora, uia, per carità. Deve fare, ho visto che gli agrumi sono belli dritti questa volta, belli verdi, evidentemente si stanno ripiazzando e riesce a dare il frutto come si deve, ma chi, meno male. Non ce l'ha fatto bene, li ha lavati, perché c'era un mucchio di modesto sopra, li ha lucidati. Allora, quello di Torre invece non è lui da Max, sempre lo stesso solo. Ogliati mi l'ha a me me l'ha ogliati. Ma la barca non c'ha problemi, la da raccogliere pure, perché il terreno molle e ci affonda, così che non ci va lui. No, non ce ne sono qua alberi di olivo, qua ci sono soltanto alberi di pino, qualche albero di albicocche e un albero di fichi, basta, non ve altro. Vabbè, fare quella roba ancora non è tempo, sicché sei tranquillo, dai, lasciali riposare quegli alberi adesso. Avanti, signor Bacchini. Vediamo se è arrivato Giulio, che è andato Giulio, è andato in bagno. Grazie, è andato in bagno. Vediamo uno dei due che è arrivato, avanti. Infatti stavo aspettando il bianco. Ciao Gianmarì, ci sono anch'io da presto, dai. Buonasera Giulio, oggi ti accetta presto allora in frequenza, almeno qualche giorno si rivive in questa frequenza, se no si addormentano tutti e la questione è seria, meno male, già fa bene, vediamo un po' se è rientrato Graziano. Chi ce lo paravano? Chi si può creare a palla? Avanti, Tore! Gianmarì, Graziano gira di visita prima, devi cavare pure un gannau. Cazzo, dai la fila a fare il dato a Vebbio. Cazzo, tra Giulio e Cosio e Graziano, quando si borreni, e sta andando a cronista tutti e due. Oddio, cronista tutti e due di venne. Allora così va la frequenza, allora, capita così, a te frequenza è affamitare come te, come se vuoi vedere le mosche, non è meglio affamitarmi. Bisogna parlare, poi Graziano oggi è in forma, dunque, mi sta tirando il passo, capito? Fa bene, fate bene là, fate bene, che ha tratto i tempi, no? Non mi fermavano così, ma non ha giocato, fammi non si è cominci, fammi mi stracco, ma sento in giù, a voi ancora, chi ci avete ancora un po' di fiato in più. E allora, un po' pure fiato in più, diminuito un piatto, sì, il giovanile, lui l'età, io l'ho sempre detto, è sempre meglio, avere sempre 20 anni, quando non va 20 anni non si cuba, ma quando comincia a venire 76 come me, è mesi anche, la cosa è come stati un po' meglio bisanti. Cosa devo fare io allora, giù, ma ogni tanto va 5 minuti, 5 minuti, fa piacere, vai, riprendi, ma chi? Io giù si lamenta, no? Si lamenta per pochi anni, giù ancora ce n'è da masticare. Vabbè, speriamo di sì, ma chi? Cosa vuoi che ti dica? Speriamo di sì. Ma tu sei più grande di me o più piccolo, Bacchi? Piccolo sono, di un anno. Allora siamo lì. Solo che sei 20 cm più alto, è quello, il problema è quello. E devo dire che quando stavo lavorando, la prontezza mi sarebbe servita tante volte, soprattutto quando attaccavo un coprifile nelle porte. Ma è questo soprattutto che mi lasciavo, io invece correvo e allungavo il passo. E allora, è quello, eh? Fate la bella essere ragazze, che è sempre con lei, mirami, e se la mette, ma chi? Allora invece bisogna andare a rilento, anche se no l'un piatto mi vuole bombola, mi vuole. Finiti sono quei tempi. Finiti sono i tempi, 18 anni, 20 anni, erano combinato con le due. La cosa ho abitato vicino a me, Zella, Ignazio, te lo ricordi? Ignazio, e chi è Ignazio? Non me lo ricordo, qual è Ignazio? Perché ne conosco un paio io di Ignazio. Ignazio Lella, il fabbro, correva per la polisportiva sessorese. Ah, sì, aspetta, come si chiamava di cognome, che non me lo ricordo più. Sì, ho capito che sei, però non mi ricordo il cognome. Sì, la si chiamava di cognome, si chiama perché si chiama questa ciappa. Infatti, ogni volta va qui davanti a casa e mi dice, io ho prima la curria, io andremo. Non volevo dire, è come se ti un basso, io seguivo. Sì, Ignazio, sì. Ignazio, ma c'era anche un altro Ignazio Carta, si chiamava anche quello. L'altro com'era? Boh, non me lo ricordo. Che anche noi facevamo l'atletica, non me lo ricordo più i cognomi, boh. Giuseppe D'Alerci, con noi. D'Alerci, certo, anche quello. E veramente il fratellastro di D'Alerci, Gavino, boh, non me lo ricordo il cognome, boh. Non me lo ricordo quello. Ehi, tanti, ormai c'è uno che ancora sta combattendo, quello che era con la procedura di Massarese, con la Liberta. Sto facendo l'allenatore, c'è una squadretta di ragazzi e ragazze. Ma fa cosa allora? La posizione sarese fisica? No, la fisica leggera, è sempre della cosa, della Liberta. Crescenzio si chiama di nome. Ah, Crescenzio, sì, Carboni. Crescenzio Carboni, la voglia. Ma io sto fissando davvero me. È poco non è polemico, con tutti i ragazzi da bisticcia, con tutti quelli dello stadio dei Pini, con tutti i bisticcia. È una cosa incredibile, ragazzi. Crescenzio Carboni, sì, mi già me lo ricordo bene. Crescenzio Carboni, esattamente. Arrogante sempre, caso. È stato arrogante quando lei incontrò, in società con lui. E arrogante è continuato a essere, lei. Sempre, la ragione l'ho sempre detto. Sì, è infatti va sempre da Giovieto, va, pacca del Daia, che elemento, va. Bisticcia con tutti, ha bisticciato con Pinna, ha bisticciato con Dettoni, ha bisticciato con tutti, ha bisticciato con Coso, il velocista, quello bravo, quello campione italiano, con tutto abbriato lo stadio, è una vergogna quello lì, stava andando mi sbagliato nel gabbo. Illuso, è fissato, di essere più forte, e dopo era sempre l'ultimo treno che arriva via, sempre l'ultimo treno. Via da pure arriva via, quando facevamo le gare, lui aveva fatto il giorno dopo arrivava. Ma carità, oh, yeah. Basso di campagnata che va via. Gianmaria invece non è fatto da 13, che è rimasto più tranquillo. E io sono sempre tranquillo, Bacchi, e bisogna essere così, però non siamo tutti allo stesso modo da fare, capito? Uno è più dell'altro, per cui la questione va bene così, dai. Tore, io non ti addormentare. Ho messo che drommendino, già sto ascoltando io. Ehi. Ma chi c'è quello che ha detto di cosa? Di lei la io conoscevo burro. Aspetta. Ma cosa? Come ti si chiama? Il fabbro, Lella. Adesso conoscevo burro. E me conosci. E avete qua vicino a casa, Ignazio. Avete vicino a casa. Capito? Anche fratello abitava qua che è morto, fratello. L'infermiere. Ma Ignazio fa il fabbro. C'è il laboratorio a Presanieta. Si è spostato da dove era, si è tornato dai pulsati in gira. Ma non lo so, non mi sono andato, gioco da un po' che non vado. Un bel anno lo so che non vado in laboratorio. Infatti ed è così, ma purtroppo, boh, andemmo. Mi bisogna che ti riparato me. Meno male in un dolcetto. Questo ratto. Subito messo da Romaro, tu. Ciao, grazie. Mangia. Il dolcetto. O il dolcione ti stai mangiando. L'amaretto mi ha mangiato, morbido, proprio amarognolo come piace a me. So dare 4 oggi, no, che Luca mi ha mangiato lo salvezzo, Luca Manicomio, provenne a tornare a provare questa radiolina. Ma che avete chiacchierato più o meno, e già va bene così, bisogna fare sempre così. Un poco maro, Luca! Avvelomi, quasi 3 ore mi siamo, tra questo, quasi 3 ore. Che hai ragione, io sono cassato, appena che sono cassato, già te sei venuto tu. Da voi 10 minuti sono entrato io, sono entrato, e infatti la bottuglia allora, E va di preciso non lo so, ma all'incirca sono le state di 4, boh. Eia, le 4 che mi ha mandato il messaggio. Anzi, prima delle 4 me l'ha mandato, gli ho detto appena giù finito, fra 10-15 minuti già l'attacco. Ed erano le 4:10, 4:15, una cosa così. E a Paoli è andato a finire Luca. È andato a mangiare, dice che guardando, è rimasto un po' di passaporto a mezzogiorno e la sta devorando adesso. Allora dite è andato a farsi la doccia, ancora sotto la doccia. Che mangiare, dice che l'ha fatta anzura la doccia, a mangiare, va dai, riprendi giù. Ok, oh, ma chi? Allora sai che il pavimento famoso, ti ricordi che mi hanno detto, ma senta, eccetera, ha giocato qualche maestro dubbi, l'ha tutto buccato con il dattellatore, ho fatto tanti di quei buchi in quel pavimento che tu non hai idea, centinaia e centinaia di buchi. E poi gli ho fatto il massetto sopra, di 2 centimetri, è uscita una bellezza, bello, proprio livellato in piano come si deve. E poi ci ho fatto il parquet, e se lo vedi tu non lo riconosci più il magazzino. Ho finito allora lì il magazzino? Hai terminato tutto? Sì, è da molto anche, e a voi, c'è già l'ufficio, c'è già lo studio di mia figlia. Ok, no, benissimo. Anche la soglia avrei cambiato, quella esterna. Cosa hai detto? Una soglia? Sì, la soglia l'ho messa nuova, l'ho messa molto più larga, l'ho messa perché la porta l'ho messa un po' rientrata, no? A filo di muro all'interno, mentre invece prima era quasi vicino alla serranda, a filo di serranda quasi. Per cui ho messo la soglia larga, roba di 50 zico centimetri in barghellara. E dunque, ne ho messo una via e una di soglia ne ho messa anche nel tramezzo, dove ho tramezzato, anche lì ho messo la soglia. E poi ho fatto il pavimento, ho messo il parquet, ma si la bella, sai che ci dov'è, proprio una meraviglia. Hai preso quel parquet della Bricco? Quello flottante, sì, e quello da posto, l'ho pagato quasi a 10 euro il metro quadrato. Venti per 1,10 mi sembra. Sì, una cosa del genere, no, 1,30, mi sembra che siano lunghi, 1,30, 1,35, adesso non ricordo bene, per una ventina di centimetri di larghezza. E si incazza, no, come io quel tipo di pavimento così non avevo mai fatto con quel materiale. Il legno direttamente sì, ne avevo fatto altre volte, diverse volte, anzi di lì. Però con quel tipo di materiale che ancora qua non c'era, allora ho comprato quello, intanto ho fatto molto in fretta a farlo e poi ho risparmiato anche un sacco di soldi. Ce l'ho qua quel pavimento dentro un dojo dell'aria qua, l'ho fatto in coso, in quello affare lì, e cos'è questo, in color castagno, una cosa del genere? No, quello che ho preso io è color quasi ghiaccio, dai, diciamo che è rovere sbiancato, dai, si chiama così, come colore, rovere sbiancato. Però lo sai quanto ci sta bene, i muri sono bianchi, bianchi, bianchi come la neve. Ho preso anche una tinta buona, perciò è tutto a posto, insomma, ecco, di lusso. È anche uscito un bello studio, veramente. Si assembra bene quello lì, infatti io qua ce ne sono 2 metri quadri, non esce di più, 2 metri quadri, sono fatto il pavimento, è un caso, una fesseria a farlo. Sì, beh certo, poi io avevo tutta l'attrezzatura per tagliarlo, eccetera, no, ho tutta l'attrezzatura, no, no, non ho avuto nessuna difficoltà. Poi, in linea di massima, anche se quel materiale io non l'avevo mai usato, perché qua sai, non ce n'era così ancora, quando li facevo io i pavimenti in legno, erano diversi, che li compravo lì da vicino al Ghero, da Taurella li compravo, ma erano tutto a bacchette, no, bacchette da 30 per 7, una cosa così, e andava incollato, era molto più laborioso e tutta la tagumba, però molto più pregiato del rimane. Però questo va benissimo perché è un tipo di materiale che ti consente di avere un certo pregio e allo stesso tempo è anche veloce e poco costoso tutto sommato. Sotto ce l'hai messa la come si chiama, il tappetino? Certo, prima ci ho messo il coso, perché quando si fa in basso si mette prima il foglio della plastica, la plastica trasparente, poi sopra si mette il tappeto a 3 mm, ci ho messo, e poi appoggiato tutto sopra, tutto, ma si scopa tutto, finito, proprio perfetto. Sì, meglio così, lo vedremo un giorno. Bene, avanti direttore. Io non ce l'ho il parquet, ho fatto io, ho giocato tutto in casa, quindi ma la hai collato senza collare quello che mette il tappetino è assente, è in crasi. Chi c'è il burro? Sì, quello ci vuole, non si incolla l'uomo, grazie. Se sei collare, quella si incolla le due legno perché facciamo una volta. E a quella oggi si fa per chi lo vuole. Però quello è molto costoso, eh. Sai tu, che se il legno a farlo costa intorno ai 110 euro al metro quadrato, sono un bel di là. Allora, questo è facile da fare, lo può fare chiunque, anche una donna lo può fare. Basta avere un minimo di iniziativa che lo può fare. Ma per me è diventato un gioco perché già sono appartenente anche alla della professione. Sicché si può immaginare se avvia difficoltà io. Capito, grazie. Ma dico, quel materiale cos'è? Che mi pare una villina, vai bene, la giurata di sotto. Mi pare è MDF impellicciato. Esatto, c'è la foto sopra, allora una carta fotografata è quella che c'è sopra, è sotto MDF, ma è MDF di quello duro, non è di chi tu il bambino, no, è di quello duro. Però c'è anche un altro tipo, se uno vuole spendere di più, c'è un altro tipo che è il laminato sotto, ci sono anche le secche fatte di laminato direttamente, e va ancora meglio, ma questo costa il buon di più. Già lo so, l'MDF è precompreso, è un materiale più duro del trucciolare, diciamo. Sì, ma io lo volevo fare, però non mi convince l'impellicciatura, secondo me. Secondo me è davvero un casino, se si graffia come si fa. È per quello che c'ho il dubbio. Puoi bastare con i mondetti in alto, no, non con i botti grossi, con i mondetti no. Certo, ci vuole un po' di attenzione, ci vuole, però ti posso garantire che è abbastanza dura la cosa, non è così facile, se graffia, non è che si tragineggi una cadria che la graffieggi, no, assolutamente no, questo no, però un certo riguardo ci vuole per questo tipo di materiale, è ovvio, ma ti posso garantire che se è bello, è veloce, poi se graffi una bacchetta, una secca, si può sostituire, no, il problema non ve ne sono, la dagli in mezzo, la dagli con una smerigliatrice, la dagli in mezzo e la sfidi, e poi anziché metterla incassata, perché allora in quel caso non la puoi incassare, perché ci sono degli incassi che sono talmente precisi che non si vede niente, proprio fare tutto un pezzo male, proprio veramente bello. Allora in quel caso lì, quando sostituisci una bacchetta, ci metti un po' di filo qui, si buoni la bacchetta dentro, si buoni e la riassistano. Non vuoi stare assistendo la cosa, è come prima, l'uomo come prima, grazie. Già lo so quello, però come materiale già lo so che l'MDF già è resistente. E l'impellicciatura che a me non mi ha convinta assai, infatti e aveva pensato la luce, oh, mi sa che mi conviene che c'è una bette, al limite che un indomani c'è una bette con una levica dentro per vernicese, capito? Beh, una cosa è stessa, grazie, non la vuoi pulire in bagno, no, una cosa del genere, o in cucina, non, sì, uno se vuole lo può fare, però ci vuole delicatezza, si mette nelle stanze, nelle camere, si mette queste cose qua, e ti posso dire che è bello, quando cammini non fai rumore, non fai niente, è veramente bello, guarda, è una meraviglia. Si prende Gianmarì. Già lo so, io infatti lo volevo fare nelle camerette, l'ingresso e il salone, in camera da letto, in cameretta, il salone e tutto l'ingresso, in bagno e cucina, no? Però c'avevo quel dubbio, Non devi avere i dubbi, se dai va a farlo, lo metti direttamente sopra ai mattoni, così senza cavare niente, metti il materassino, tanto tu abiti in alto, non c'è bisogno nemmeno del telo di plastica, ci metti direttamente il materassino e assenti in alto, e sei a punto, capito? Per cui non è un problema. Però non grazie a Gian Maria, non ripigliare tu, grazie, avanti Gian Maria. io che no, è molto interessante il discorso. Io ripeto, l'ho visto facendo, è abbastanza facile, non l'ho mai fatto, però è un mestiere che non mi sono mai messo a farlo. Ho visto che l'ha fatto mio figlio e ce l'ha fatto lui, è riuscito, veramente bello. E quel materiale è veramente bello, è sempre lucido e poi preciso, non è vero, la brattura, è proprio preciso, preciso la giunzione, dai. Sì, l'assessore, che le aggiunture non si vede niente, sembra tutto un pezzo unico, sembra. E vedi solamente le venature del legno, perché si sa, questo rivestimento che c'è sopra l'MDF sono delle fotografie fatte dal legno e poi sviluppate sull'MDF, no? È una casa, ma è una casa abbastanza dura, mi disgrazia, non è una cosa così fragile come ti pensi tu. Ti sto dicendo che va bene, certo, ci sono un disegno, non vuoi entrare con le molte grosse con i montetti, no? Cristina, però ti vuoi camminare tranquillamente con le scarpe normali, sopra non ci sono problemi, poi facile da pulire, a pulire naturalmente se lo devi lavare, deve esserci uno straccio strizzatissimo, che sia quasi asciutto, e lo pulisci benissimo, che poi tutto sommato, ma se lo ricopro e sia pulito, mi disgrazia. Già lo so, quello già lo so, no, ma vendono anche la cena per quello, adatta per pulirlo, quel tipo di pavimento. Non spesso, ma ogni tanto una passata con la cena già ci vuole. Sì, però se gli dai la cera devi avere una certa manualità, grazie, perché se tu gli dai la cera e non lo pulisci bene, compatto, allora lo vai a manci, più lucido, più opaco, e il discorso è quello. Lì, a meno che non prendi quel tipo di cera che va fatta col rullo, però ripeto, lì ci vuole un po' di mestiere, un po' di manualità, ma tu penso che già va al limite. Già ne ho pulito di qualche, noi non l'ho pulito, già l'ho pulito di qualche appartamento che ho restaurato del mio principale, che c'è il parquet in certi appartamenti, e mi mandava a pulirlo, capito? Sì, no, ma è facile da fare, tranquillo, ti sto dicendo, è facilissimo, e per me è conveniente. E poi tutto sommato, mica, tu ti tracchi, non devo trovare, grazie. Quindi ne tratti tutto, ti compare giù a un poco e ti cambi il colore del pavimento. Non è come se prima, con i mattoni, con il coso, un carraccio, un sacco di lavaggio, un sacco di fatica, oh, ripeto, va bene, va, veramente bene, va. Ma chi, scusate il tip tap che abbiamo fatto, avanti ma chi? Ok, no, è sempre informazioni, sono sempre sapere qualcosa di più. No, poi ritornando a quel palchè, quello che ho preso io sotto c'era la lamina di plastica, è rivestito con uno spessore in plastica grigio. Sì, ce ne sono diversi tipi, ci sono il MDF, il laminato, di diverso spessore, e ce ne sono un sacco di tipi, dipende da quello che uno vuole spendere, no? Però io ho visto anche, ad esempio, nella palestra che c'è lì a Predamieda, addirittura lì c'è un sacco di gente, là, la palestra tutti i giorni, aperto tutto il giorno, senza fare nemmeno l'introduzione all'ora del pranzo, visto che c'è il parquet, eppure regge, e questa palestra è già da anni che è lì funzionante, nonostante tutta la gente che entra e esce, per dirti loro, grazie, stai tranquillo che va bene, è dura abbastanza anche, dai, avanti Tore. Grazie, io ce l'ho il parquet, questo delle camere è diverso da quello dell'andito e della sala del soggiorno, ma che devi pagare le camere, l'ho pagato a 12 euro al metro quadro, ma tu lo devi vedere cosa è, e papunillo è facilissimo, Certo, non è che se le vuoi lampare in alto, se te ne cagli qualche cosa, c'è rubio che si fa di danno, però devi stare un po' attento. Grazie. Ma grazie, è andata a comprarsi un bacchè, mi è convinto l'avremmo. Ah, insomma, mi è convinto l'avremmo. No, adesso sei macciato, è lì, già retro su. Subito pensato a romano, vai giù. Cazzo, si è pensato a subito, cazzo. Vai, grazie, attendi, attendi. Io ripeto, no, a fare questa roba così, cazzo. Una parola, cazzo, giù. A cavare tutto, cazzo, a fare, oh, e non è fatibile queste cose, magari me l'ha piaciuto averlo un pavimento del genere, però come fai? Io qua c'ho il pavimento, quei mattoni che facevano prima, dopo andavano litigati e così, però c'ho un mattone che andava fatto il pavimento, qui c'era sempre più bello giappino, non come, non mestiere come Bacchisio, cazzo, per carità. Ah, ma si sono a prendere però, io ogni tanto, no, ma che fila che si apprendi e rimane feo, ma chi? Sono di cosa? Sono di cemento, non sono di cemento, sono quelli di giovani. Siamo a pietre di tanti pezzi di gallino, ma di lati, di passeggio. Di quello di vincimento ce ne sono i vari tipi, ce n'erano i vari tipi, c'era il segato, c'era quello della peste di Margo, c'era il granigliato, quello che faceva L, di tutti i tipi, e che difetto ti fa adesso? Infatti anche pezzi di marmo ci sono, capito? Quasi bianco, no quasi bianco, un po' crema, però in certi punti rimane aperto, rimane, sta cominciando a farsi nero, capito? Sugli aggiunture, è per quello che non mi piace cioè, questo pavimento, però il resto è bello, come pavimento, bello, è forte e tranquillo. Quello con la lucidatrice dovresti farcela, dare cera, riempire a cera, se dovresti fare dei lucidi, se no bisogna levigare. Bisogna lificarli, allora, dovevo lificarli. E poi toccava fare la domanda per la 380, perché quella macchina di solito prima erano tutte a 380, e allora dovevo fare, poi non sono dritti i pavimenti, dai, arrivato a fare, per carità, così che però una bella lificata sarebbe stata veramente una cosa ben fatta, ma oggi l'ho fatta, ma non l'ho fatta ancora, e mi che rimane così per adesso. Per limitare bisogna togliere tutti i mobili, lasciare spazio libero, sennò ti fate un casino fino in più. È una brava a cavare tutto, le camere sono piene, come ti fai? E poi roba che pesanti, cazzo, via. Ma pulimo così e tiriamo avanti così, ma che se a voi, capo rimane da randia. Il nero lo puoi anche tirare fuori con un po' di acido muriatico, ma poca cosa però, qualche goccia di acido muriatico nell'acqua, passare con un pennello e poi tirarlo fuori, se no non c'è altro rimedio, e non ti devi trattenere con l'acido se non si mangia tutto. Ah, là c'ho quell'attrezzo che è piccolino con l'acqua bollente, cazzo, ah, sa come si fa gli aggiunturi, dove è sporco, ah, sa come te ne ricava la sporchizia, non ha idea. Guarda, cioè, però dopo tanto si vede questa riga, non si deve vedere, come, ma saranno due o tre righe magari lunghi in ogni camera, capito? Ma veramente è bello, quando si pulisce la rossa come si pulisce, solo che vedi queste aggiunture che si vedono troppo, capito? Ma se lo pulisci con pulivapor, con l'attrezzino che hai tu con l'acqua calda, poi compri un filetto di stucco da cosa, dalla Brico, nel bianco, se il mattone è bianco, grigio, se il mattone è grigio, ci sono tutti i colori, e lo stucchi, e ti rimane pulito. Cioè quello non ci ho pensato io. Una cosa del genere bisogna fare qua, perché in questa camera ci sono due o tre righe che vorrei veramente pulito bene e messo quello su cui ti sto dicendo. Di là ci penso, mio bacchi. Polvere di marmo da te ci vuole in quel pavimento tuo, che ormai lo vendono. Cosa ci vuole, Grazia? Polvere di marmo, è uno succo, ed è polvere di marmo, però è già preparato. Quello lo metti, lo rasi e quando è semisecco lo allisci piano piano, vedrà che la spazzolina e ci rigiurisci come te lo malmaro. Tu già lo sai, già l'hai visto con me il pavimento. È bello, amici, sembra così, ma è bello, è solo che è un pavimento fatto alla me ne frego, capito? Non è perfetto. In qualche punto è rialzato, per cui insomma a gobbi, ecco. Non dico a gobba grande, ma già si vede che non è proprio a linea, dai. Ma quello perché è il massetto che c'è sotto, con il tempo è logico, si è fatto un gigantanni vecchi, insomma, ovviamente, ma è una vita. E sto io 42 anni più, ti puoi immaginare come sono. Vedi, era il massetto, non fa nulla il pavimento. C'era il massetto graziale, no, quelli sono messi a uno a uno, sono messi con la calce, non c'era il massetto. Secondo me è da un massetto, magari a qualche punto si è smosso e si è imbuffato, cosa ne gioco? Mi pare. No, stai sbagliando, quelli allora in quel periodo si faceva da uno a uno, si metteva la calce, si metteva il mattone e via dicendo, si faceva fila, la lenzata la mettevi a tre file. C'era un mattone 25x25 e c'era un 30x30 la mettevi a 90 e via, e a uno a uno si metteva con la calce. E secondo chi l'ha fatto, cosa ha fatto? Che c'entrava molto in fatto e allora è uscito le gobbe, si è abbassato, si è sollevato. Matti, scusate un attimo, mi devo allontanare, devo andare a prendere la signora. Ci sentiamo dopo, se ci siete ancora. Ok, ciao. Ciao, dopo. Avanti giù. Ok, ciao. A dopo, se siamo ancora a frequenza, fate sentire. Sì, ma è così, quello sì, però siamo lì. Guarda, se tu decidi di farti quel lavoro lì, guarda che è una cosa velocissima, è anche poco costosa, devo dire, perché se l'ha fatto tuo figlio, se l'ha fatto lui, lo può fare anche a te. E in mezza giornata si fa una camera lì, non è che non te lo vai, tranquillamente. Ripeto, hai fatto una cosa per sempre. Una brava, troppe cose ci sono, capite? La casa è piena, per cui forza di mobili, lui, come fai? No, saranno. Ma gira, sto pensando quello che stava dicendo Bacchiglio e Graziano. Prendo quel materiale e lo faccio così. Anzi, me lo faccio fare, no, lo faccio io. E me lo faccio fare perché non piace, andiamo in certe file, in certi pezzi di mattoni che ci sono anche quasi mezzo centimetro di staccato da uno all'altro, e vedendolo così tutta la fila, non so quanto è brutto. Le fughe si sono aperte, ho capito, sì. No, certo, sicuramente non vendono qualche succo per recuperare, bisognerebbe appunto andare a informarsi. Tu hai detto che sono di colore un paglierino, così è. Infatti rimane un po' grigio con tanti colori di pezzi di mattoni, come il gallino, capito? Il gallino di sgratto, pezzi di marmo, c'è tutto, capito? Mi bacchiso quel pavimento, già li conosci bene. Ho capito, ma se si sfoga, poi quando va per terra si pulisce tranquillamente, perché rimane proprio bello isolato, rimane dal mattone. Fuga bella si chiama. Vi siete soprappopolati con Giulio Bacchie. E così infatti, così come hai detto tu Bacchie. Ma gira con viene a fare così, con lo succo e pulire prima bene e dopo metto con lo succo e senz'altro sarà migliore, molto migliore. Perché è bello il pavimento. Quando è lucido, sai, sembra uno specchio, ti puoi specchiare qua. Perché il pavimento è veramente bello. Sì, tu devi andare a comprare quello della Maffin, non comprare altre marche, compra la Maffin, è l'unico che c'è garantito, costa qualche centesimo in più, però ti dirò che è ultimo. Ma se si fa anche ricchezza, se lo fai lo fai, non è a guardare capi 5 euro, no, ma chi, lo fai come si deve, prendo il materiale come si deve, che almeno sei tranquillo, capito, tutto lì. Poi lo trovi la canica da cosa, da R, la mattina trovi la canica da R. Ah ecco, ho capito. Ci faccio un pensierino, Ok, ripari di giù. Ok, ma chi si chiama Fugabella quella fare, con lo stucco lì, no? Solo è così. Sì, Fugabella è un tipo, è sempre quello lì, lo chiamano Fugabella, ma lo fa anche lo Gleber, lo diamo lei. Ma non è affidabile giù. Io ho usato sempre i prodotti della Maffei e ti dirò che sono ultimi, ma che la colla. La Maffei è sempre superiore alle altre colle che ci sono in circolazione. Ho capito. Ma se vado alle Mastersi anche, mi Mastersi è attrezzatissimo, più di R per queste cose. Io penso che saprà anche consigliare, perché mi dici il colore e sono loro che ti dicono cosa ci devi fare, perché sono del mestiere, capito? E dunque secondo me il mio marito dovesse andare lì a Fontana di Lugoibu, dove c'è De Martis, che c'è una rivendita di materiali edili, e dunque chiedi a loro e loro si sanno consigliare bene. Infatti un giorno faccio venire al Bacchigio qua e già lo vede lui e sa come fare, mi dice come fare, oppure anche il colore, e per cui dopo vado, me lo compro e lo faccio fare. D'accordo Bacchigio? Ok, d'accordo, domani faccio un salto, un giorno lo vediamo, capito? Vediamo che cosa diavolo si può fare. Perché non mi piace che certe righe, è brutto magari, perché vedi questa riga nera, quasi nera, perché è chiaro che io ho provato a pulire ma rimane leggermente basta un capo di fiammifero che basta quasi in mezzo, se ci punti, capito? Ma allora è vuoto, là c'è svuotato, c'è stato il cemento. Sì, ma che qui, prima di mettere lo stucco, bisogna passare con il vapor. O anche come si usa per pulire dei vetri e finestre che mandano aria con acqua, c'è una certa pressione. Deve spostare con quello lì, pulirle le fughe e poi stuccare. Lasciare asciugare e poi stuccare. No, ma se devi farlo, Bacchini, lo pulisco bene come voglio fare, perché io sono capo a buono macchina e va per mi capo, sembra così, ma lo sa come lo fa, pulito quell'aggeggio. E per cui è chiaro che prima di farlo quel lavoro bisogna ben pulire, lasciarti succare e dopo succare, tutto lì. Puoi succare, se no se lo fai quando è bagnato non hai fatto nulla. Allora lasciarlo asciugare e poi l'indomani si passa quello lì. E una volta che lo passi che asciuga un po' lo stucco lo lisci. Ma faccio così, un giorno vieni casa, lo guardi e così che mi dice cosa devo fare e cosa devo prendere e me lo faccio, perché almeno lo voglio vedere perfetto, ecco, perché i mattoni sono belli, dai, sono bellissimi, una volta che ho coperto un po' questa riga così sono tranquillo, mi piace di più, dai. Bisogna farlo così. Grazie. Ehi, le fughe lì si sono imbizzate, là. E col tempo già l'ho qua. E in altra razza a me me l'ho qua. Paletta lì, e sul vasile da Matteo. Con lo succo glielo passa. Tutto un racetto, una cacciutta da bimbassa. Lo spazzolone, con il cannavasso. E c'è bello bianco come la prima. E già è facile una cassata. E beh, la cazzo, ma l'importante è che sia liscio, capito? L'importante è che sia liscio come gli altri aggiunzioni, capito? Invece qua c'è il fosso in mezzo, se non materiale c'è il fosso, capito? Ecco perché rimane brutto. Ehi, ci sono dei segni, no, che Paoletta, anch'io, non ce l'ha fatto. Tu ci ha fatto tutta la cucina, la veranda ce l'aveva fatto. Anche il bagno prima ce l'aveva fatto, non quest'anno. Il bagno l'anno scorso l'aveva fatto. A pure lava in terra, monta e fa. È logico, cioè la righetta è appena più larga, si mi rugavateggia, non è così i bacchi. Sì, dove c'è pulito, oppure venendo un po', anche il cemento bianco va benissimo, anche il cemento bianco se si assomiglia più al bianco. Infatti, perché la riga coperta dal cemento bianco, prima ci mettevano un cemento bianco quando verificavano, ti ricordi, Macchi? Infatti, sulle aggiunzioni da un mattone all'altro c'è la riga bianca e deve essere cemento bianco quello. Sì, allora cemento bianco, allora fate in cemento, allora puoi fare anche in cemento bianco e costa di meno il cemento bianco della Focabella e del corso, del prodotto. Anche cemento. E beh, non si sa capire, una volta ben pulito, lasciato asciugare, messo il cemento, va bene così, così è. Pulito, lasciato asciugare e stuccato. Man mano che lo metti, basta la schizza sopra per tenerlo liscio. Facendo e pulendolo, e lisciandolo. E poi non è che devi passarci lo straccio subito, perché se passi lo straccio subito diventa ruvido, con lo schietto diventa liscio. Fallo subito, non è possibile, bisogna lasciarlo asciugare un po', chiaro. Vabbè, Bacchi, dai, che un giorno ti ho detto, vieni, così che vedo un po', con cemento, con altro materiale bisogna farlo, perché non mi piace così. Ok, fai girare, Bacchi, dai, mi aspetto 5 minuti. Sì, grazie. Lui. Luca non c'è più, sparito. Aspetta, mi sta dicendo mia moglie, io sto 42 anni, 52 anni ci siamo qua. Ma siamo 50 anni a maggio. Ah, 50 anni a maggio. Ah, 50 anni a maggio ci siamo qua, Bacchi. Sì, so. È un bel po', 50 anni, e probabilmente 50 anni che hanno una vita. E poi questi pavimenti non muoiono mai, se tu sono belli veramente quando sono ben puliti, tu ti puoi specchiare, però solo c'è questa riga in mezzo che mi rompe, ogni tanto c'è una riga che non mi piace, ecco. Dai, il senso di essere sporco, quindi questa riga uno entra e c'è un bingo. È proprio così pare, è a passare, ho provato anche una punta di cose, ho pulito bene, ma con quello cosa dice, con l'acqua calda, adesso come lo fa, pulito, bianco, ho fatto in cucina che è una meraviglia, adesso devo rifare. E se non lo fai legge lo togli, tutto l'altro macchino che porta in capo lo mattone. Ormai stai misurando quel mattone, 25x25 o 20x20. Ma questo 20x20 sono. E fate ricetta, metteva roba in economia, no? E poi la roba di lusso, no? Ah, però se su qua, aspetta che più di mezzo, questa di altri dolci, mattone, ma mi sembra, no, forse ho più di 20, aspetta. Ho 20 25 per 20, non lo so che cosa mettevano lì. Mi pare sono 20 ma 20 se di casa di Gian Maria. E Giulio dove? Chiuso! No, sono qua! No, stavo leggendo il discorso, il televideo. Adesso per chi non ha l'assicurazione RC Automi, stanno preparando una legge che raddoppiano le multe e nei casi di reiterazione anche sospensione della patente per 60 giorni. Hai tenuto, ben fatto, ma io l'avrei dato 60 anni di galera di salienti, quelli che non ci fanno l'assicurazione, se non li puoi trattare la macchina, non li tratti, è inutile che stai lì, se capita un incidente e metti nei pasticci la gente, non è possibile che si possa aspettare una cosa del genere. Vabbè dai, avanti mio marito. La Sari non l'hai intesa, lo telegiornale, un bel niente si guidenne senza patente, senza assicurazione, e anche gente embriaga e pure tossici, sequestro immediato della patente e 2 anni di carriera, a palla regia in busto. Grazie, ti stavo aspettando, mia, venire a lavarmi la schiena, non ci sei venuto. Aspetta che ha giuzzuccato 3 volte, non ha messo nessuno e me ne sono andata. Aspetta pure se hai anna in terra, gli ve l'hai pazzo, là. Vai, fa un raggio, vai. Bene, già vieni, non posso recuperare pure, bene. Giulio, non sono andati. E allora, andate Semo, e allora, la pasta la serie ti voglia brissare, mi fa sfogliare la china, o Luca. Mi ha giurato da pure in terra, non l'hai visto Giulio, vicino alla Iana, quando apri a segni la biglia Giulio. Ma chi? Ma chi? Dimmi. 25 per 25 sono. 25 per 25? Ehi! E allora di lusso, no? Allora ti hanno messo il bottone di lusso. Che facciamo video, facciamo, sono 25 per 25. Sono belli i miei quelli. E poi chi si va a mettere non si faccia arrivare. Sono uno che dice, ci arriva che non mi piace. Comunque, vediamo cosa fare, ma che va? Un giorno vediamo un po', vieni qua e te lo vedi e mi dici cosa devo fare, dai. Adesso vicino da morire una di queste sere che sarò compreso la campagna e faccio un salto. Ci siamo al baracco e arrivo. Ok, d'accordo. Bene, Tore, arrivati sì. Davvero, Tore, ci credi? Ma era da quella moto zappa, baromi, ma chi? Quella moto zappa devo andare. No! Ogni tanto ricordo una grazia. Come mai? Come mai pagata a controllare che si chiama la moto zappa? Perché fate un buco non finì più. Quando ho visto le vostre buche a Gian Maria. Ha preso il premio di noi dei bacchi però ma vedere ora in casa sa che si vuole dito che fa a casa e per un pezzo che si dito con un assiduo è sempre il premio di noi. Avanti grazie a Paolo adesso. Ehi, avanti che voleva entrare. Ehi, mi ha aperto la porta. Piedici! Giulio, ti viro giù! Guarda, arriviamo lì! Se dopo vuoi entrare, qui paraggio io! Raga, lo sta, faccio un baretto, vuol dire una gara! Allora, se chi è che vuole entrare? C'è una ripresa della bicicletta, è elettrico! Chi c'ha gruselline, baromi! È troppo pesante, così che non lo avrà fatto a resistirlo, a Isola, che è troppo pesante. allora mi si era pigliato da un tipo in occhi, fanno lo scooter, lo manzano, la buona incassa sul cavalletto, quindi una bella lata, frena, si bosa, boom, e secchi, e poco cammina. Già lo grido, ci sono gli scooter a elettrico, capito? E infatti io me la prendo, quello lì mi prendo lo scooter, almeno sono più tranquillo, capito? E allora sono bellissime, camminano un bel camminano. E allora, gira per la forza per la mira. So che se torni di mira, non ho toccata più la bicicletta, non l'ho toccata più, perché non ci arrivo. Non ci arrivo e quando mi fermo se non tocco e non metto i piedi per terra e giro per un marciapiede ti farò come il pezzo di salame come è successo. Devi piazzare prima di uscire sulla strada, no? Da fermare, non vedo un marciapiede, gatta, da fermo. Non è andato dall'interno, mi sono arrivato, devo fare un pezzo di salame. Allora, dice, così ho fatto io. Non fatemi far tirare ancora. Il capita a me che non si dice si va a baciarmi, ho tutto abbassato. È tutto abbassato, siccome c'è la batteria, di più non scende, proprio al massimo non scende, c'è la batteria perché è lunga sotto il sedile la batteria, è una batteria lunga, capito? Così che proprio a fondo a tutti non ci scende la batteria, io non ci arrivo, capito? Quello è fatto. E io se non tocco almeno quando mi fermo, devo, almeno con le punte di piedi devo toccare seduto, devo toccare il piede a terra, capito? Invece non ci arrivo e è successo così, ecco perché non l'ho toccata più. Però la posso fare ugualmente, magari quando mi devo fermare devo trovare il punto d'appoggio, se no ti fanno come il tempete slavo, mi è successo una volta, non l'ho presa più per quello, capito? Guarda che se tu chiami alla ditta dove hai preso quella e gli chiedi quanto te la valuta quella che vorresti prenderti lo scooter, ce l'hanno anche quella ditta dove hai preso quella bici, lo scooter, e basta la telefonare e gli fai la proposta e senti quanto te lo valuta quello, sto ritirandoti quello e ti prendendogli lo scooter, paghi la giunta e ti vedi lo scooter, che è meglio, secondo me è meglio di la bicicletta, li ho visti anche ieri e mi sa che all'altro anno me la piglio, boh, va benissimo. Bella sì, so che è bellissima, l'ho vista e l'ho anche provata, ma è meglio della bicicletta, chiaro che però rimane anche più riservato, anche se piove, è come uno scooter, è uno scooter, che è più riservato rimane, vai, è migliore, almeno anche seduto così da sedile ci arrivi a terra, sì, tranquillo, tutto lì. Ho già camminato, avrà fatto 20 km più, non di più la bicicletta che ho io, mi è sempre coperta, ho comprato i teloni adatto, la copre tutto quello e nel magazzino chi la tocca più? C'è una batteria più bassa, ma costa 280 euro, ma Buffarelli sì, costa più la batteria quasi che la bicicletta. Già lo so, e stavo guardando ieri, stavo anche leggendo, ce n'è una addirittura che assomiglia alla Vespa, tipo la Lambretta, c'era la Vespa e la Lambretta, è tipo la Lambretta, e c'era scritto che può sedere anche in due persone, non so quanta potenza c'ha la batteria, è troppo un bebè. Esatto, ci sto facendo un pensierino, forse ci riesco all'anno prossimo, se Dio vuole, me lo prendo, ma lo scooter infatti, non la bicicletta, lo scooter, tutto lì, ti bacchi! Lo scooter, ma ci vuole la patente per lo scooter, insomma lì, mi sembra che ci vuole la patente. No, ma chi? È l'elettrico, è la batteria che si chiama... non ci vuole patente, niente, nulla, nulla, non ci vuole niente. È come la bicicletta, la stessa cosa. Non è un motore, è un motore, non è un motore a scoppio, capito? È roba elettrica. Gliel'hanno sequestrato. Allora si ha comprato questo a bicicletta, però è uno scooter, scooter bicicletta, fare i pedali, ma così vedono i pedali. Con una pedalata e poi camminando l'ho visto, no? Ogni tanto da una pedalatina leggera leggera, ma cammina un bimbi. Siete già propopolati con Gio Maria, vi siete schicciati uno con l'altro. Avanti Giulio. Ok, e perché dove sempre spiti Gonzalez, con l'Uridu? Ma si è lanciato a Bacchino, ma che mi pigliato giù, non l'ha compresa, grazie. Infatti nemmeno io ho capito bene quello che stavate dicendo, perché eravate in tre pur parlando. Vabbè, grazie, se vengo lì ti penso, i diti ti penso, i diti mi ti penso. E la circolare di ribasso, eu! Scusami, non è possibile, è molto, perché è andato in visione una recita, ma una zanda la riga, oh Giovanni, una zanda, ma non è andato in visione una. Beh, è una cosa incredibile, poi non fa di nuovo la ricca caro Diddu, gatto, non fa di nuovo ragazza, senza di sempre sopravvivere. Certo, lei non c'è un bel pigliaretto, esatto, ma insomma, grazie. Ma chi cosa vuole dire che Graziano? Bisogna fare al nuovo, Graziano, bisogna fare al nuovo. Bisogna poi con la cartellina rifare in cosa, le dici? È proprio, cazzo, ha detto io che dire a capo, già facendo il tomacetto a disposizione, fino a sé, per un mezzo subito. Cos'è, cos'è, il bippittito di questo microfono, com'è, c'è lo grilletto di questa persona che va giù, chissà, no, la cosa si chiama, la 92S, questo com'è, c'è lo sfiore, c'è la cartuccia. Ma cosa devi fare? La guerra devi fare, non è poco, vai un fusile, vai a vettura, altro vai, ma pure la bomba atomica vai. E allora no, la bomba a mano è a viraggio, la granata. Oh, non è possibile, ragazzi. Questo è proprio, ma chi? Questo è proprio un ribelle, un altro, Graziano ribelle, io pure mi lascio la granata, la mia granata lascio. Lui è bobo, non è possibile. Samarisa, non può curarmi, diceva, ma cos'è, cos'è? Associato con qualche banda di coso, associato, sai quale lezione sta facendo? Cazzo, boh, bisogna mandare guerra di mandare, cazzo. Lo dice forse Buru. A te ne vanta? Ma con la rotata vai, ma grazie, con la rotata vai. Ma grazie, è andato a pegliare la pistola. Ma bella fede, parli come ti chiama, e si riscrive il nome, da voi vedete e ti lo dici. Ma se manda la fotografia, se la manda su WhatsApp, se la manda. Se la vede, ma chi? Cosa da giudizio giù? Non è possibile, ragazzi. Io lo comprendo, ma che è due tanti in un bronzo. C'è un furente, grazie. È Parisio che si che si è messo al mato, Gio Mario, Parisio che si è messo al mato. È minata in Cianzola, è minata. E poi sempre la guerra, spaccavano sempre quelli che avevano cannocchiare, e più di cannocchiare a bassa razza, di dire grazie. E allora, faccio pure l'ultimo acquisto che ho fatto, 4 telecamere. Meno un po', è tutto, perché una zona proprio mitragliata, dice, allora, sicché due, ha preso la percussione, come cavolo si chiama. Per cui è tranquillo, capito, giù. In caso mai vea che cosa, che non anda, ero già pronti, Givi. Allora, andando nel paese che è diventato un confidente di qualcuno, sta pegando le telecamere, e non si pegna le fasi delle riprese, fate, e la puoi fare un giro, ma fate, grazie a te, buona piombo, no. Chi ci sono i frarrocci, mi buonanotte, ti rifigliali, occhio alla penna. Non è possibile, non te lo permette la legge. Tu, solo, al massimo rubiare l'otto del cazzatore che la puoi punire, ma se lo puoi punire è quando la disciuli, alzaia. Guarda che queste sono micro, dunque le confondi e non si vedi nulla. Tu rivedi, Barò. Non so quelli che tu li vedi, si fa la telecamera, è quello che li vedi. Ecco, allora cosa fai, Gio Maria? Fatti sotto controllo la zona, non sta piazzando le telecamere, così la manco dice controllo, se vede qualcuno che fa lo manco, esce fuori con la doppietta e lui si qui meglio, così fate dei bacchini. Lasciali mi ha detto l'ascensorista, cazzo tre volte ci sono cazzato, un bunker e i roghi, c'entro noi ci bivu. Ha detto, dai, c'è Bacchisi a riprendere. È incredibile, perché me ne parlo di giù, a molla va. Non sei stato, è dove là, non sei detto, ma non mi lo dico con un sincronizzato, non sei detto, pensa a casa, subito, boh, non è possibile. Riprende Bacchisi. Sì, Graziano è veloce. Graziano è Spiri Gonzale, è velocissimo. Dunque non perde tempo, va bene. Signori, io vi devo lasciare, che mi sono prendere uno squillo. Laggiù. Ok, ciao Giulio, buona serata, saluti in casa, grazie della chiacchierata. Anche a Graziano, ciao Graziano, saluti in casa. Grazie ancora della quattro chiacchiere, anche per Gian Maria. Stessa cosa già per Gian Maria, e ci sentiamo e ce la vediamo Gian Maria, ce la faccio sentire come questa sera. Ok, buonanotte a tutti, buon proseguimento, Bacchisi, in cura di te. Ok, ciao Bacchisi, salutoni, grazie a te della chiacchierata, a domani, dai, sentiamoci domani, così si divertiamo anche un po' caedo. Sto capendo che pure un secondo canale, io, bisogna due, si sono apparrendi, si sono. Ma non è possibile, ragazzi. Io di chi ti scendi la televisione non ho mai permesso, la verità, ma che da voi diventano delinquenti di giovani luci. Vabbè, comunque, avanti giovani per salutare a Bacchisi. Ok, ciao Bacchi, ricordato tutto anche il tuo correa, vai, ci sentiamo male se Dio vuole. Buon proseguimento in serata. Vai, grazie. Ciao Bacchisi, alla prossima se coincide. Buon proseguimento, buona cena, ciao, bacioni bacioni. Beh, io ne approfitto a staccare anche mi devo fare l'insulina. Ciao Gio Maria, buona cena a te e tutti. Ciao Giulio, anche a te. Ciao Luca, se c'è l'ascolto e anche chi è in ascolto. Ciao a tutti, a domani, riprendi giù. Ok, ciao, grazie. Grazie a te per la chiacchierata, dai, saluti in casa. Ci sentiamo domani, eventualmente, se coincide, speriamo di sì. Avanti Gio Maria. Ok, gira, chiudiamo anche noi, ci sai. sono le 8:15, già per cui ne approfittiamo. Comunque ciao, grazie, ci sentiamo alle prossime. Giù, ma praticamente anche a te saluto di casa, e è un piacere, dai, e ogni tanto almeno ammazziamo la serata. Buon proseguimento e grazie alla chiacchierata. Vai giù. Ok Giovanni, ricambiato il saluto Giovanni, grazie anche a te per la chiacchierata, saluti in casa, dai, ci sentiamo domani eventualmente. Ciao, anche stasera ci siamo divertiti e così almeno teniamo viva la frequenza. Ciao, ciao a tutti, chiudo anch'io, ciao. Ciao, ciao. Ok, ciao, ciao.